te, yo te quiero, flowers. Senti nell'aria c'è già po' positività. Può sembrare un caso, ma in realtà partire con un brano come questo, è un brano Creative Commons del nostro, anzi dei nostri carissimi amici, adesso vi dico chi sono perché non me lo ricordo, ah sì, Giovanni Del Grillo più Corrado Show, che insomma fanno questa bellissima canzone che si chiama Albano e Romina Power, e guarda caso, insomma, tutto sommato in qualche maniera è attinente, insomma, a quello che stiamo per andare a fare e che quindi iniziamo facendo in un modo semplice. Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. E ciao ragazzi, non ci abbiamo sigla perché non è una trasmissione di nessun tipo e quindi aspetta, vai. E quindi intervengo per salutare tutti i miei amici dicendo dobre vecer. Smistroske janasto, bodrovia ma. Questo ti rispondo. Come state? Allora, intanto ringraziamo tutti i poveri amici che abbiamo costretto a venire qua stasera. Ovvero Carlo Sant'Agostino. Buonasera, amici ascoltatori. Amici, ti spiazzo in due. Poi abbiamo Carmine Puccio Console. Ciao a tutti, no, io per il russo, per le lingue cirilliche non sono portato. Vabbè, ma neanche noi, tu di Basta che parli al contrario, infatti. È come parlare russo, come pronunci le parole come, al contrario. Come David Lynch ci insegna. Sarà con noi anche quando arriva, insomma, giustamente a impegni lavorativi. Anche È arrivato. C'è la guest star Luca Casciola. Ciao a tutti, che mi sentite bene? A voi, ti sentiamo alla stragrandissima proprio. C'ho il microfono quello della volta. Quello della volta, quelli, una volta i microfoni, Quello allora, a valvole, cioè. Io intanto mi sento di ringraziarvi perché sempre partner in crimes in questo grandissimo amore che è Ciao 2020, che è stato Ciao 2020 perché è stato proprio effetto sorpresa, effetto bomba, e poi abbiamo condiviso tutti insieme, insomma, l'attesa e la sorpresa per questo nuovo episodio, ragazzi. Quindi grazie, iniziamo subito dicendo una cosa però, importante, che chiaramente io non l'ho visto, quindi sto commentando cose che non ho visto, quindi, però io sono qui per dare una mano. In realtà la mia funzione è quella di regista, però siccome che mancavano degli assist e le cose, vabbè, insomma, fammi dare una mano a Michela che magari si trova un po' sperduta. Però scusa Pizzi, prego. Una cosa, visto che è Ciao 2022-2021, fai l'introduzione come sarebbe quella, no? Quindi, cioè, che ne so, questa sera abbiamo simpatica fatto. Loretta alla voce, l'avete già fatta? No, non l'abbiamo fatto in questo modo, avremmo potuto fare. Simpatica Loretta. Poi in regia abbiamo Carrotto della Devastazione, eccolo. Comunque, diciamo, l'unica cosa che possiamo dire, io non l'ho visto ma percepisco questa cosa, è che sicuramente l'effetto sorpresa rispetto all'altro anno, no? Che non dire, c'è. Insomma, non c'è chiaramente. Non c'è stato. Però ci stava anche questo, nel senso che a un certo punto, mentre all'inizio, insomma, è arrivato questo boom, cioè questa roba che tutti ci siamo chiesti, ma cazzo, ma che cos'è sta cosa proprio? Ma da dove viene? Ma perché? Ma per come? Poi abbiamo capito che insomma la bomba era esplosa e che sicuramente tutti abbiamo capito, che poi so che c'è stato pure un trailer, un teaser che io mi sono persa in realtà, però abbiamo capito che non sarebbe finita lì, insomma, e secondo me non finirà così. Sì, a quanto pare c'è stata questa specie di pre-pubblicità dove dicevano che non ci sarebbe stato Ciao 2020 e che quindi si sarebbero dovuti accontentare di guardare la televisione italiana o qualcosa del genere, insomma. No, quella è stata l'intro del programma programma. No, quindi vedi, tu hai detto ascoltato che non... cose che io ascoltavo, ma hai ascoltato male. Maledetto io, infame. Va bene, allora, partendo da Carlo Puccio e poi giustamente anche Luca, vi è piaciuto? Allora, sì, a me è piaciuto, anche se, come ha giustamente ricordato Michela, non c'è stato l'effetto sorpresa. No, l'ho detto io, quest'anno. Non ha detto Michela, scusa. Andiamo a Cesare. Fermato Michela, okay. Ma ci sei tu, sei tu. No, va bene, adesso torno a fare il regista, prego, prego. Comunque, non c'è stato l'effetto sorpresa, ma questo in fondo ce lo aspettavamo. Il problema probabilmente è stato per chi aveva aspettative molto alte per questa seconda, cioè tutti noi avevamo aspettative molto alte, quindi c'è stato, volendo, un inizio, un piccolo effetto delusione, perché alla fine è esattamente la riproposizione di quello che hanno fatto l'anno scorso, però di contro ci sono state anche veramente delle trovate eccezionali durante il programma, delle chicche che mi hanno ovviamente fatto rinnamorare, anche se è logico che se uno mi dice ma ti è piaciuto più di quello di... l'anno scorso era tutto bellissimo perché era tutto nuovo, era tutta una cosa inaspettata, quest'anno è ovvio che si sente il sapore di minestra riscaldata, però c'è anche da dire che non ci si poteva aspettare altro, ecco, non è quello. Sì, infatti. Sono arrivati anche gli sponsor veri. Sono arrivati gli sponsor veri, sono tante cose che ovviamente l'anno scorso non c'erano e quest'anno ce le siamo ritrovate. C'è da dire che però tutto sommato alla fine è un ottimo prodotto, non puoi dire che ti ha fatto divertire o emozionare come quello dell'anno scorso, perché l'anno scorso era la prima volta, ma diciamo che alla fine è comunque un prodotto divertente e con delle trovate che poi magari andremo a svelare durante la puntata, che sono state incredibili. Ok, Carmine. Sì, io l'effetto che ho avuto è stato più o meno come quando all'Electronic Show fanno gli show di Devolver, del publisher, no? Che aveva puntato tutto sul fattore wow e sul fattore sorpresa, quindi la prima volta che ne hanno fatto uno sono rimasti tutti quanti a bocca aperta. Il secondo era tecnicamente fatto molto meglio, però ovviamente l'effetto wow l'avevi perso, perché insomma alla fine era more of the same. Diciamo che io, mentre me lo guardavo su YouTube, pensavo sì, bello, però effettivamente l'anno scorso mi sono divertito un po' di più, però poi a mente fredda, riguardandolo un po' per la trasmissione, dicevo vabbè, oggettivamente hanno imparato magari dai piccoli errori che avevano fatto in precedenza, è una cosa meno spontanea, però insomma lavorata meglio, e alla fine se lo guardi in quell'ottica sì, anche se la parte musicale, la parte di produzione musicale dell'altro anno, cioè andando a richiamare certe sonorità, era veramente notevole. Luca, dimmi, eccomi. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto? Allora, in realtà io la prima domanda che vorrei fare, però per uscire un po' dal ti è piaciuto o no, è: ma quanti di voi hanno amici russi? Che hanno parlato di questa cosa? Beh, io ce n'ho una proprio vicino, diciamo, perché la bassista della band di Igor è russa. Quindi l'altro anno, quando è uscita fuori questa cosa, la prima cosa l'ho fatto e l'ho chiamato, ho detto: ma ci stanno a prendere per il culo? E mi ha spiegato in realtà perché nasce questa cosa. Non so se voi sicuramente lo sapete, ma se l'avete spiegato bene ai vostri ascoltatori, sai perché nasce questa storia del l'anno scorso l'abbiamo spiegato nello speciale Ciao 2020. Esatto, giusto, nell'apposito speciale. Hai ragione. L'abbiamo spiegata l'anno scorso, però sì, se vuoi ripeterla magari no, no, nel senso, magari non è la stessa, nel senso, io quello è che i russi sono scontenti dello show di Capodanno, questo mi ha detto lei, cioè che i russi sono anni che fanno petizioni perché lo show di Capodanno è brutto. Io questa cosa, cioè, non pensavo neanche che esistesse il fatto che i russi facciano petizioni per quello, sì, e non li ne portano in Siberia per molto meno di solito. No, cioè non si lamentano di cose importanti, però si lamentano lo show di Capodanno. E poi oggi proprio parlato con una mia altra amica che andrà a fare un tour in Russia, che è tornata sconvolta dal fatto che questi praticamente non hanno mascherine, non hanno protezione, hanno niente, perché loro devono morire da eroi. Cioè, questo sì, questo un po' nell'est Europa, un po' dappertutto, perché noi abbiamo anche una persona che è stata in Bosnia. Però no, io voglio morire da eroi, che poi vabbè. Quindi ci hanno fatto, io non so se la sapete questa cosa, le petizioni negli anni, cioè dagli anni 80, 90, quando si è sbloccata la cosa, qui si facevano le vite perché lo show di Capodanno era brutto. Io ho capito, cioè, ma non sarà questo il motivo per cui hanno fatto questo? Cioè, questa è una delle cose per cui hanno provavano delle cose nuove. Cioè, però... tipo, non è che noi ci lamentiamo di fantastico. Capito? Cioè, non è che, come se noi facciamo la petizione per l'anno che verrà di Amadeus, se è brutto, leviamo. Cioè, no, beh, ma. Però potremmo, Vabbè, comunque c'è da dire. C'è da dire. Prepariamoci a una petizione tra poco che lasciamo perdere sul presidente d'Italia, perché. C'è da dire che comunque Ivan Jurgant, ovvero il nostro Giovanni Urganti, il nostro mito, il nostro eroe di sempre, insomma, da ormai da un anno a questa parte, è famosissimo. Perché, ma in America. Ma l'eroe è tuo. Eh? È solo mio e tuo, è no. Solo mio e tuo quell'eroe. No, sono sicura che anche l'eroe di Carlo. C'ha migliaia di fan, milioni di fan. È famosissimo. Beh, lui poi hanno viralizzato proprio tanto. Hanno guadagnato, secondo me, più con YouTube che con tutto il resto. Conduce un programma comunque in Russia che è tipo una specie di Jimmy Fallon, il corrispettivo, si dice, corrispettivo di Jimmy Fallon in America, quello che è per la Russia. Io ascolterei la prima canzone. No, allora, prima di ascoltare la prima canzone andiamo a. Sono tante le canzoni. Qual è la prima canzone? La prima canzone sarebbe. Vai. Volevo dire che a me è piaciuto anche di più di quello dello scorso anno, ma sai, io venivo da proprio il 23, mentre tornavo giù da Bordighera, mi ero visto quello dell'altro anno, cioè 2020, e poi Pupo Live al supermarket, quello che do io. Basta, questo Pupo Live al supermarket, basta. L'abbiamo già Luca, ti vogliamo ma basta. L'abbiamo già citato. Basta, perché ti banniamo. Però, nel senso, vedendo queste due cose, poi vedendo, è proprio invece come quando vedi, capito, Guerre Stellari, l'impero colpisce ancora, che è ancora più bello, perché... Pupolè cantava gelato al cioccolato, cos'è che dolce ma salato. Parto tutto frutta del supermercato. Va bene. Comunque, qual è la prima canzone? La prima canzone è Ciao amico di La Boda. Allora, aspetta, ma non è la prima canzone. Vabbè, questa è nell'elenco. Prima di andare alla prima canzone che c'è Simone. Posso, mi permettete di soltanto di una cosa, poi non dico più niente. Io ho detto 50 volte, fate un elenco, perché se no io faccio l'elenco. Va bene, come è sul disco, perché il disco buono, è così. Riprendo io le redini della trasmissione. Brava, perfetto. Ok. Allora, scusate. Sono dovuta intervenire perché scusa Michela, sai che Pizzi è uno di cultura infima, esatto, di scarsa cultura. Non me lo ricordo manco più, manco io. Allora, diciamo così, la trasmissione inizia con l'introduzione di Ivan Jurgant, che mentre l'altra volta diceva abbiamo fatto qualcosa per aiutare i nostri amici italiani a riprendersi, non mi ricordo esattamente come diceva, però non era così. Diceva che loro l'anno scorso l'introduzione era lui in studio che diceva che siccome c'era un anno brutto, il Covid eccetera eccetera, allora non se la sentivano di fare lo show di Capodanno, e quindi avevano chiesto all'Italia di trasmettere il nostro show anche in Russia, e quindi questa era la scusa per far iniziare Ciao 2020, ok? Quindi questo era l'anno scorso. Quest'anno invece inizia in un modo un pochino diverso. Lo stavi raccontando? No, diccelo te. Inizia con una scena che quando l'ho vista ho detto cosa stanno facendo, perché subito c'è questo dualismo che non si riesce a capire, perché in realtà lo show è una cosa che non abbiamo detto, l'abbiamo detta l'anno scorso ma la ripetiamo quest'anno, questo show è pensato per i russi, non per gli italiani, certo. Noi italiani lo guardiamo, ci divertiamo perché loro lo rifanno traendo dalla loro, diciamo, esperienza degli anni 80 e di tutti gli anni 80 e anche precedente, in cui sono stati bombardati dalle trasmissioni televisive italiane, quindi loro sono cresciuti, tutti quelli di una certa età sono cresciuti con la TV italiana, riprendono i nostri stereotipi della televisione italiana degli anni 80 che si sono solidificati nella loro, diciamo, formazione culturale, e rifanno come se fosse uno show degli anni 80 italiano, ma in realtà stanno facendo uno show russo pensato per i russi con caratteristiche russe. Infatti inizia con un bambino che viene messo su una sedia a recitare una poesia, che è una cosa che mi ricorda anche la nostra infanzia, cioè almeno io anche tutti noi almeno credo abbiamo visto molto anni Italia. 70. Allora, il bambino che si trova in un appartamento in stile comunque che ricorda comunque lo stile italiano, con un albero di Natale, non so se in realtà caso. Infatti è una cosa che bisogna dire, ma in realtà lo stile è russo anche dell'appartamento, sì, non in italiano, perché ho sentito dei commenti di russi che commentavano il video su YouTube, che dicevano che quello è proprio uno tipico stile di una casa russa degli anni 80, tra cui c'è l'albero di Capodanno, e questa è una cosa che ho scoperto quest'anno, cioè che loro non festeggiavano il Natale e non festeggiano il Natale, ma quello ortodossi, che per noi è il Natale è Capodanno, ma neanche ortodossi, proprio zero religione, cioè quando c'era stata l'Unione Sovietica, aveva tolto le feste religiose, aveva tolto completamente la festa del Natale, e i russi quindi avevano buttato tutta la festa nel Capodanno, e come simbologia l'albero di Natale è diventato l'albero di Capodanno, dove è praticamente uguale al nostro albero di Natale, ma in cima c'è la stella rossa, la stella comunista, la stella comunista, ed è vero, cioè, sono andato a cercare, ci sono proprio le stelle rosse, che io potrei presentarvi gente che lo faceva in tempi non sospetti anche in Italia. io lo farei infatti. Comunque, menzione d'onore per le varie foto che stanno appese in nel caso, ma soprattutto la foto della Sabrinona nazionale, c'è la foto di Sabrina Salerno che non me l'aspettavo, ma anche lei è molto famosa in Russia, incredibile, tantissimo, amatissima. Io penso che la prima solo perché volta non hanno conosciuto Moana. Vi posso raccontare questa cosa, che parenti della mia amica che mi hanno ospitato in Russia si sono incazzati perché io non ero né simile a Monica Bellucci e tantomeno simile a Sabrina Salerno. Perché si sono incazzati? Ah, vabbè, avevano delle aspettative basse. Sono venuti a vedere la mia amica italiana, che delusione per loro, totale. No, dovevano essere tutti fighi, sia donne che uomini, come gli italiani, no? Sì, con lo stampino. Sì. Quindi, poi menzione comunque d'onore perché deluderli la filastrocca che racconta il piccolo Ivan Jurgant è in realtà presa da un film che io ho visto, perché me l'hanno fatto vedere, un film Brat, che è famoso in Russia, era famosissimo negli anni 90 in Russia. E il padre che recita nella, diciamo così, che poi manda il bambino a dormire subito dopo la filastrocca, è in realtà il vero padre di Ivan Jurgant, quindi insomma, che ho scoperto essere un attore famoso in Russia, quindi lui è figlio d'arte, Ivan Jurgant. Anche la canzone... dirmi se qualcuno di questi ha partecipato alla versione russa del Signore degli Anelli che giro su YouTube. Bello, bellissimo. È l'unico film russo che ho visto nella mia vita. Vabbè, intero. Prima di tutto è una mistificazione, quello non è un film, chiaramente. Cioè, nel senso, era una cosa studiata per la televisione, brutta, la fatta televisione. Male, ma era una cosa per la televisione. Confronto Fantaghiro era Guerre Stellari, però in effetti Fantaghiro era un lavoro contro coglioni, io lo continuo a ripetere. Comunque ce lo sentiamo questo primo brano, così poi raccontate un allora, pochino tanto... sì, così sentiamo anche Luca al commento musicale, no? Perché in realtà il primo brano non so se ce l'hai, perché sarebbe musica ritmo e stile. No, non ce l'ho, però canta, non c'è. È quello perché è la sigla iniziale di Giovanni Urganti. Torniamo sempre al solito discorso di prima. Vabbè, ci siamo organizzati. Vabbè, no, così. Comunque musica ritmo stile, che è la sigla del coso, in realtà fa fede a una canzone dei tempi sovietici, che è dei Tre Cavalli Bianchi, che sarebbero i tre mesi dell'inverno, che pratica gennaio, febbraio, tre mesi dell'inverno, dicembre, gennaio e febbraio dovrebbero essere quelli che portano poi alla primavera, che accompagnano l'eroe verso la luce, verso la primavera. E tradizionalmente la Russia ad aprile fa caldo, quindi. Però nella traduzione italiana diventano, che i tre mesi invernali diventano musica ritmo e stile. Ma tra sti tre cavalli c'è sta Antrax, stupido cavallo? No, non c'è sta. Ho capito. Vabbè, allora è deludente. Vabbè, Antrax e Artax. Artax. Vabbè, come cazzo si chiama? Cazzo si chiama. Esatto. Sentiamo la prima canzone, dai. Ci sentiamo Ciao musica. Amico di La Boda, così poi sentiamo anche Luca con la sua critica musicale, giustamente. Non dite parolacce, che siete aperti, eh? Ti chiedo come va, la tua voce mi fa tremare. Non mi aspettavo che decidessi di chiamare. Ho messo a fosse mio, tu come sempre scherzi e ridi. Però siamo un trio, e quei ricordi sono spariti. Diciamo che qua Luca, batteria e tastiere proprio anni 80 sparati, no? Un po' come l'altro anno. In realtà poi questi sono brani moderni, no? Sono sorti di riarrangiati per la trasmissione in questo modo. Sì, esatto, sì. Okay. Come l'anno scorso uguale. Sì, sul mare col pattino, però... Cosa chiamava? E poi la tastiera... No, comunque cioè, rimane comunque una zozzeria, cioè, sia la versione originale sia questa, cioè. La versione originale l'hai sentita, non lo sì, so certo, perché l'ho sentita. Ma questa qual era la male. Com'è che si chiama questa si chiama Ciao Amico, Ciao Amico, la Boda, amico Svetrana Loboda, caro amico, caro amico, ok, Rod Noi è la canzone originale, aspetta che la vado a beccare, Svetrana Loboda, che non è manco buona. Ah, che poi è una delle ultime questa, che poi lei è una cantante famosissima, ma in realtà vabbè, questa non c'ha grandi menzioni, ecco, insomma. Diciamo che il vantaggio è che le canzoni durano tutte due minuti e trenta, questa è l'unico vantaggio. Però non c'hai gli originali per confrontare questa. No, non ce l'ho, no. Allora mi fa proprio incazzato. Manco gli originali. No, basta. Ti mando il link. No. Non mi complica la vita. Sono zozzerie pure quelli, ma non è detto l'anno scorso alcune originali erano alcune erano carine, sì, è vero, alcune erano buone, sì. Non comunque il pop russo non è che rinomato, insomma. Diciamo che questa si capisce neanche quello che dice, devo dire la verità, rispetto alla produzione dell'altro anno, insomma. Hanno speso 3 euro per la produzione di sto brano, sono sicuro. Nel senso, beh, sì, insomma, diciamo. Però ricordatevi che l'euro in Russia vale un sacco, quindi questo bisogna. Quindi 3 euro, cioè fai un disco intero. Cioè, ce la fai. Diciamo che sto rubli. Demagogia. Sto rubli, so 100 rubli, che so 3 euro. E io con 30 rubli ci compravo una stecca di sigarette. Quindi, nel 2005, quindi insomma. Quindi, vabbè, mo' mettici l'inflazione. Vabbè, però. Pure che sono passati 20 anni. Io trovo interessante rubli. Perché il pop russo cioè è una via di mezzo fra l'eurodisco e il pop giapponese delle idol. Però fatto in italiano è ancora più strano. Quello è... In italiano è riaggiornato agli anni 80. Però gli anni 80. Però, cioè, nel senso, se vogliamo fare un parallelismo proprio serio, cioè sembra roba di Malgioglio, non sembra roba degli anni 80 che facevamo noi fatti bene. No, ma loro è quello che puntano, chiaramente. No, loro ci hanno avuto comunque, cioè, i fior di cantanti, Albano, Toto Cutugno, che cavolo c'era pure. Comunque quella era pop fatta bene. Non è che non era pop. Tendiamo un pelo pietoso sulla cosa di Mattia Bazzar che ho visto là. Non mi fate parlare di questa cosa, stavo poi. Dopo vi dirò anche come l'hanno tradotti i fantastici, che poi cioè il modo in cui hanno tradotto i cantanti, però poi ci arriveremo. Il problema è che quelli non erano i Mattia Bazzar, cioè no. I Mattia Bazzar dell'ex, i nuovi Mattia Bazzar se tu compri un nome di una cosa sei quella cosa, c'è cioè sempre questa cosa da vedere, cioè, quindi vabbè. Comunque queste sono cose troppo complesse. Però diciamo che, cioè, il pop anni 80 italiano non era così terribile come lo fanno passare loro. Cioè, io sarà che sono un fan. Mica di lo fanno pop. Passare terribile, loro, per loro è fantastico. Ma cioè, nel senso, l'omaggio fatto così, la sonorità. Vabbè, ma l'omaggio fatto così, devi vedere chi l'ha fatto. Cioè, magari era capace. No, vabbè, allora aspetta, però facciamo un attimo, mettiamo pure un attimo ordine su questa cosa. Un perché... po' di verba, se appoggiamo. No, però diciamo che negli anni Ottanta c'era la musica leggera de merda. Come questa, e c'era la musica magari più di qualità. Loro giustamente, probabilmente questa distinzione non la facevano. Gli piaceva la musica che arrivava dagli anni 80, dagli anni 70 da Sanremo, perché comunque gli proiettava un mondo che per loro era infinitamente lontano e sul quale hanno anche largamente fantasticato. Che poi secondo me è il succo di questa trasmissione, anche quello, è vedere l'immagine, certo, che loro avevano di noi in quel periodo lì, capito? Cioè, insomma, quindi ci sta, no, che fanno musiche così, cioè è divertente anche questo, tutto sommato, perché ci porta anche a vedere che l'ammazza la monnezza che abbiamo sentito pure noi, no, giustamente. Ma io la cosa che trovo fantastica è che più andiamo avanti nella storia, più quello che ci sembra la mondezza lo andiamo a rivalutare, no? Cioè, ma questo è un altro discorso. Quando ero piccolo io effetto nostalgia, cioè, quando esatto. No, effetto merda più merda sarebbe, perché cioè quando ero piccolo io che tu sentivi i ricchi e poveri, no, ma che te stai a sentire i ricchi e poveri, no? Poi c'erano gli anni 90, gli anni 90 c'erano gli 883, madonna, ma che te senti gli 883, ma... Cioè, oggi ti senti San Giovanni e dici, però tutto sommato, io 883. Cioè, questo si chiama effetto vecchiaia. I giovani diranno la stessa cosa. Vabbè, però non possiamo dire sempre tutte le volte le stesse cose. A proposito di giovani, io volevo sapere intanto se tua figlia, prego, Carlo, ha apprezzato questo. Secondo me non l'ha proprio visto. Speciale. Come non l'ha visto? Sì, no, figurati se non l'ha visto. Se è piazzata davanti alla tele, se la scollavi, ti sparava. Appunto. Come tutti, più o meno, i giovani della sua età, 20, 22, 23, sono tutti super fan di questa trasmissione. Sì, se l'è vista tutta, e come era prevedibile, anche loro, non avendo più l'effetto sorpresa, non hanno goduto, cioè non, soprattutto le canzoni, ecco, perché le canzoni ormai quello era una cosa assodata, mentre l'anno scorso era l'assoluta novità, cioè il pop russo che veniva trasformato e ricantato in italiano con le sonorità anni 80. Quest'anno le canzoni non hanno avuto la stessa presa, per due motivi secondo me. Uno, perché è mancato un gruppo come l'anno scorso, quello, il momento clou che è stato quando dei ricchi e poveri, esatto, sì, cantati dai, come si chiamano, assolutamente, i piccoli grandi. Esatto, è mancata una cosa di questo tipo, cioè una hit italiana rifatta e rivisitata da un gruppo russo. E seconda cosa, tutte le canzoni, in realtà i cantanti che ci sono stati quest'anno sono un po' più age, cioè sono più cantanti della tradizione russa, un pochino più vecchi rispetto ai cantanti dell'anno scorso, che invece erano molto giovani, sì, e molto per i giovani, e quindi questo si risente anche nella trascrizione della musicalità, cioè quindi anche le canzoni stesse e i cantanti vecchi sono per un pubblico più anziano. E anche per questo che io l'ho detto all'inizio, ma lo ripeto, cioè quest'anno secondo me soprattutto questo Ciao 2021 era molto molto più per i russi che per l'Italia rispetto all'anno scorso, dove magari vuoi per caso, vuoi perché è uscito così e piaceva tantissimo anche in Italia e al di fuori della Russia. Quest'anno, per capirlo, io l'ho dovuto vedere due volte, ho dovuto anch'io sentire le trasmissioni russe per capire cosa dicevano. Vabbè, per valeva ben l'altro anno, perché comunque quello che loro dicevano in italiano in realtà era corrispettivo a una cosa in russo, sì, aveva un senso che noi, ma le canzoni per esempio ti arrivavano molto di più. Vabbè, anche, sì, in vabbè, anche alcune canzoni in realtà sono canzoni abbastanza vecchiotte che sono state riprese anche di 10 anni, insomma. Insomma. Esatto, quest'anno. E tra l'altro, vabbè, anche i personaggi che sono intervenuti, per esempio l'intervistato di quest'anno, Galkin, che mi sembra che si chiami così, comunque è un personaggio molto famoso in Russia, che in realtà parlava italiano in un modo incredibile. Cioè, sì, però noi non capivamo niente perché non capivamo niente. Perché lui ha fatto diverse imitazioni. Russa. Ha fatto diverse imitazioni, però ha imitato anche Girinovsky, che è un politico, quel politico cattivissimo che aveva augurato praticamente alla, ad una parlamentare ucraina di essere stuprata. Quindi, cioè, vi invito a stuprarla. Aveva detto una cosa del genere, aveva fatto veramente scalpore, proprio un personaggio fastidiosissimo. E poi ha fatto anche l'imitazione di Robertino Loredi, che in realtà questo Robertino Loredi è un personaggio italiano famosissimo in Russia, che però era famoso, sì, un italo russo che era famoso quando cantava da ragazzino, insomma, negli anni 50, sì, praticamente, sì, sì, con la voce da bambino. È una cosa, sì. Che poi lei in realtà ha fatto l'imitazione di questo, però con la voce di un altro cantante storico russo che aveva una voce più brutta. Insomma, tutte battute, comunque riferimenti alla Russia, anche la battuta iniziale, perché non vieni a trovarmi nel mio castello, eccetera. Perché lui vive veramente tutta in un basata, castello. Esatto, sul fatto che lui vive in un castello e quindi viene preso in giro per questo. Insomma, sono tutti riferimenti che per noi erano impossibili da capire. Vabbè, ovviamente. Comunque, il fatto che le canzoni sono brevi non significa che da adesso in poi noi sentiremo fino al primo ritornello, perché sentirle tutte magari poi diventa impegnativo anche a livello di tempi. Che canzone ci abbiamo? Allora, adesso? Io penso che adesso c'è una certa bionda morta. Dai, la bionda morta. C'è una certa bionda morta con il ragazzo con la giardinetta. Assolutamente a pezzo dell'albero, ragazzi. Dopo vogliamo sentire poi dopo il parere di Luca, naturalmente. Sei troppo piccolo, non esco mai con te. Hai 17 mentre lui ha 23. Mi porta fiori, lui da una tatu. E tu? Ha una tatu. Cosa? E mentre lui gira con una pistola, tu con brutto minibus fai a scuola. La sana tu ci che è un bandito. Sentito? C'è molto pupa, tu suoni rock sul TikTok, che strano. Ti chiedo scusa, ma io mai con te sarò. Ancora non è nato il tuo amor. Sei ancora un bimbo, devi aspettare. Lattare un giorno. Il mio ragazzo guida una Fiat in piena notte in cerca di guai. Noi vabbè, questa praticamente l'abbiamo sentita praticamente tutta, perché è difficile inserirsi, fantastica, no? Fantastica. Ma diciamo che qui metrica e virgole musicali a cazzo de cane proprio, cioè nel senso non hanno proprio Luca. È quello sì, bello. Sì, no, ma in realtà c'è un problema mentre risentivo queste canzoni che non sono trash. In realtà non sono trash. Questa è partita la differenza di 17-23, io ho sentito che è a posto. Capito dove vogliamo arrivare. E poi grazie a Dio pensato magari sugli anni e non i centimetri. Che poi tra l'altro, diciamo, il mio ragazzo guida una Fiat, mi sembra che comunque in russo ci sia un riferimento poi a una lambretta che guidano in Russia, però non mi viene il nome. No, non è una lambretta. Allora, non è una lambretta proprio, è un modello vecchio. È una macchina vecchia, nel senso che è una macchina vecchia che andava negli anni 90. Allora, c'è da spiegare una cosa. Allora, innanzitutto questo brano non è recente, ma è comunque un brano dance russo degli anni 90. che viene poi remixato con musica degli anni 80, e il testo si riferisce proprio a degli avvenimenti, al modo di il mondo della Russia degli anni 90, quando era caduto il muro di Berlino, in quegli anni in cui tutta la criminalità c'era, era pieno di criminalità, certo. pratica la criminalità, e quella macchina lì era la macchina figa per andare in giro negli anni 90 in Russia, ma anche che era negli fatta, anni 2000 fidati. Era fatta, sì, poi dopo è andata avanti, vabbè, è dura, no, sai, tradizionalmente. Quella macchina era fatta sulla base della struttura, adesso non mi ricordo il modello esatto, non so se è proprio la Giardinetta, ma comunque una macchina italiana Fiat che aveva le linee di produzione in Russia, sì, che erano state poi Fiat lasciate Fiat lì, e su quella base avevano costruito questa macchina che era la macchina figa. Quindi quando dicono guida una Fiat, è proprio un riferimento al fatto che venisse fatta su quella base della fabbrica. Sai che invece avevo fatto un'ipotesi diversa, perché se qualcuno di voi ha mai visto quella grandissima boiata che è Squadra Speciale Cobra 11, tutti i criminali di Squadra Speciale Cobra 11, che ricordo ha generato 8 videogiochi, se cercate ci stanno. Tutti i criminali guidano Alfa o Fiat. Purtroppo, perché mio figlio era drogato di quel telefilm. Cioè, guidano tutti o Alfa o Fiat, non c'è scampo. Sì, no, diciamo i poliziotti che guidano Volkswagen, Audi. Beh, no, diciamo anche che nell'Unione Sovietica negli anni 70 c'è un accordo proprio tra URSS e Fiat per la costruzione di macchine alla portata del popolo. Quindi, insomma, ci fu proprio anche un redesign di alcune macchine Fiat. Quindi, alla fine c'è una storia dietro a questo tipo di discorso che ovviamente noi non conosciamo, perché non scusate, non mi sta venendo il titolo adesso, vi giuro che ve lo dico dopo. Tempo fa presi un libro che parlava della conquista dello spazio da parte dei russi, però in realtà era un pretesto, partiva di lì, e poi parlava delle produzioni industriali russe che erano sbarcate fuori da oltre cortina. Tra queste si parlava delle automobili che, insomma, diciamo così, non erano esattamente il massimo dell'efficienza, e si parlava del fatto che parecchia della tecnologia utilizzata dalle auto russe era in realtà un'eredità della Fiat. Sì, un po' per gli accordi di Mazzola, così stavamo dicendo prima. Confermo. Addirittura all'interno del libro c'erano estratti dei documenti in cui si diceva chiaramente quali erano i manager della Fiat che erano andati a trattare in Unione Sovietica, come erano stati accolti, le reazioni iniziali, che i russi avevano detto no, non se ne parla, prodotto di massa, è consumistico, non lo possiamo fare. Come pian piano li avevano convinti, facendo vedere che in Italia la democratizzazione dell'automobile era passata attraverso i modelli popolari della Fiat, e pian piano li avevano convinti. Vabbè, dai, ovviamente, comunque, secondo me, se un russo avesse guidato una Fiat, col cazzo che gli dava il permesso. Però, scusate, ma io ho una domanda. Vai. Cioè, rientriamo a bolla. Sì. Sì, è mio figlio che c'è un bambino passa a vedere se sto bene. Era per capire. No, perché Luca ha ucciso qualcuno. No, Luca subito diceva: bambino, non c'è niente per te. Bambino, non c'è niente per te. Ma questa è una storia che capirebbero in pochi. Allora, ormai è finita. Cioè, è che secondo me il bambino può tornare da un momento all'altro, ricorda Luca? Sempre. Senti, ma chi è Michela Bacca di Lampone? Ah, questa è bella, però in realtà Calibri io non so. E Mavini. Ascoltiamola, perché è molto figa, cioè nel senso che io, al di là del fatto che non ho idea perché abbiano messo questo testo in italiano. Beh, la canzone si chiama Federico caso. Fellini. Vai, facciamo ascoltare. Mosca quella regina sembra una Barbie matrimonio Lettonia. Federica Fellene. Una partenofilma. Oscar quella regina. questa arriva al champion, arriva la parte. Ah, ok. Sì, sì, sì. Ma se no stavo a chiudere. No, no, no, adesso arriva la parte rock. Cioè la parte hip hop. O quello che è, Luca, diccelo te che cos'è. Mondezza. Reggaeton, che cavolo. Io non dormo, io non mangio, la ragazza crash. Questo è il riferimento a Ciao 2020 del 2000, Ciao 2020, la ragazza crash. No, è che è un modo di dire russo, crash, vuol dire innamorarsi. Sì, sì, lo so. Russo. No, non solo russo. Non solo lo dicono. Vabbè, non solo russo. Comunque è molto di moda in Russia, in questo modo di dire, e c'è spesso in tante canzoni. Vabbè. Comunque c'è da dire che questi due ragazzi, Galibri e Mavic, no? Che sono due cantanti giovani. Questa è una canzone attuale, proprio del 2021, un trash russo come potrebbero essere. Galibri e Mavini, come dice. Sì, esatto. E Abib, e Abibi, no, Galibri. Ah, allora, aspetta, Galibri e Mavini e Abibi. Sì. Abibi è la ospite che canta insieme a loro, che però non c'entra con la canzone originale, che invece è di Galibri e Mavini, che è questa Federico Fellini, che si intitola proprio Federico Fellini, anche in russo, la versione russa. Wow! E la canzone russa è proprio perché il Federico Fellini, come tanti registi italiani e film italiani, sono famosissimi in Russia, cioè la Russia vive sulla filmografia italiana, soprattutto quelli anzianotti o comunque prima del regime, gli unici film che vedevano oltre ai film russi erano i film italiani. D'altronde non è una novità dire che comunque l'Italia era l'unico paese occidentale veramente vicino all'Unione Sovietica, poi da un certo punto di vista, quindi insomma. E quindi il testo dice proprio quello che sentiamo anche in italiano, cioè anche il testo russo di questa canzone è questa ragazza è proprio bella, lei vuole fare l'attrice, vuole fare un film come le attrici famose che facevano i film con Federico Fellini, vuole diventare famosa come le attrici dei film di io Federico però Fellini. mi trovo d'accordo con lui. Io devo dire, su tre brani, devo dire, rispetto alla qualità dell'altro anno, non è solo una questione di novità, si sente che non è non stavo proprio per niente allo stesso livello. No, assolutamente non ci siamo rispetto all'effetto sorpresa. C'è stato poi e vabbè, quello l'abbiamo finale. Messo in conto e via dicendo. Io parlo proprio cioè io l'altro anno mi sono trovato a zompettare su alcune canzoni e sì. Fino adesso su tre canzoni non zompenterai, te lo no, diciamo ma... Sì, ma no, comunque l'effetto di quest'anno, cioè quello che è stato bello non sono state le canzoni quest'anno, le canzoni le ho trovate anch'io tutte sottotono, mm-hmm. Ma sono state le cose che sono successe tra una canzone e l'altra. Nei framezzi. Per esempio, se ne vogliamo raccontare uno e poi dopo ci sentiamo un'altra bella canzone. La presa in giro di Squid Game. Sì, il gioco del gambero, com'era il gioco del calamaro. Praticamente, sì. Vabbè, all'inizio quando tra l'altro l'hanno doppiato in italiano finalmente, quindi se qualcuno è interessato insomma. Quando all'inizio il bambino che era urgante da piccolo col padre racconta la poesia, poi lui gli regala un Pinocchio, gli regala. Allora c'è da dire una cosa che ho scoperto e non sapevo, e ho scoperto con Ciao 2021, ed è una cosa che proprio non me l'aspettavo. Sapete chi ha tradotto dall'italiano al russo Pinocchio? Dall'italiano al russo? Sì. Non lo so. Ma perché lo dovremmo sapere? No, non c'ho Tolstoi. Idea. Tolstoi. Ho tirato indovinato, sì. Ma non solo, ho scoperto che praticamente perché è così famoso a Pinocchio. Vabbè, anche perché Tolstoi comunque era un grandissimo scrittore di fiabe, cioè, esatto, è infatti famosissimo. Lui cosa fa? Traduce Pinocchio, sì. Ma dopo averlo tradotto gli piace così tanto la storia di Pinocchio che ne scrive un altro. Scrive un Pinocchio 2 inventato da lui e quindi esiste anche un Pinocchio russo di cui noi non sappiamo niente, che è praticamente forse è meglio così, di animati, delle cose assurde. Quindi no, fermi, cioè ho trovato l'ebook, una roba incredibile. Adesso se lo compra Bucci, chiaramente. Assolutamente, il russo è anche un Pinocchio versione russa. Ma guarda, io ti consiglio Pinocchioschi. Io ti consiglio da fruitrice della letteratura russa, ti consiglio anche le altre fiabe di Tolstoi perché sono veramente belle, quindi se ti capita per i bambini soprattutto. Sì. Vabbè, comunque a parte questa, quindi c'è la figura di questo Pinocchio che poi diventa la presa in giro di Squid Game, dove al posto della bambola c'è c'è il Pinocchio gigante e per prendere in giro un po', diciamo, il mito che hanno i russi degli italiani, che siamo sempre belli, fighi, curati, eccetera. I russi dicono spesso che gli uomini italiani si tengono meglio delle donne russe. Beh, è vero. Ma insomma, no, vabbè, non guarda a noi, però in generale è vero. E infatti, anziché ucciderli col mitra, li spettinano col fon, cioè chi sbaglia. È una cosa inaudita. Esatto. Assolutamente. Anche a Luca Casciola qualche anno fa, se gli toccavi i capelli, si disturbava lui, cioè nel senso. Ma sì. Ah, sì? Sì, sì, è una delle tante chi dopo ricordo più. Davvero? Sì, sì, come no, che scherzi. Pure quando te facevano le foto, aspetta, fammi vedere, fammi sistemare, fammi cosa. Così. Se mo non vado manco più dal parrucchiere. Adesso mi tagliano i capelli, mi cascano direttamente da solo. Esatto. No, mi casca un cavolo. Però comunque il prossimo anno vorrei capire una cosa, visto che poi un po' devo andare via, insomma, vorrei mettere un focus su pizzichi e zompetta, cioè vorrei capire com'è andata questa cosa. Come funziona pizzichi e zompetta? Che stavo lì, ascoltavo, veniva, cantavo, zompettavi con una gamba, due gambe, zompettavo col sedere sulla sedia, così tipo ranocchio praticamente. Vedi. Che bella immagine, ti ho visto solo così soppettare sul Root Misterio, ma lì soppettare però dentro la tomba proprio, morì per sempre, insomma, quindi esatto. Tra l'altro, se il prossimo anno ci andiamo io e Luca Casciola e Marco Gualdi a Ciao 2022 con un pezzo che si intitolerà ovviamente Un Tanto al Chilo. Grande pezzo hip hop che abbiamo fatto poi riproporremo spesso. Beh, io mi ascolterei anche un'altra bellissima canzone. Anche no, dai, ma basta. Dai, facci sentire scusa, la canzone di Ciao 2021. Scusa, che mo basta, scusa. Comunque, questa si chiama Lui è Manigi, giusto? Manigi. E questa farà felice, non so, qualcuno. Questa ci piace. A te ti piacciono tutte, a dir vero? Sì. No, vabbè, questa poi c'ha un riferimento importante. Però uomo italiano. Uomo italiano. Sono un uomo solo. Guardate nei miei occhi. Non mi piace espresso. Non mi piacciono ritocchi. Sei single, tu finge mammone, sei sempre su Tinder. La mamma ha detto uscire non vuoi, ti fa le spaghetti, tu fa quel che vuoi. Le donne son belle, ti faccio capire, ascolta davvero, dobbiamo finirlo con questo cliché. Capito, sparite. E ora ficcate bello ben bene in testa. Io non vi giungo ma voglio far festa. Lotta no. Felicità, no, ce la farò. Via le stereotipi, via me libertà. Uomo, uomo. Ma poi dice via me libertà, cioè pazzesca sta cosa. Posso dire una cosa? Lo dico proprio al volo e poi dici tu. Secondo me questa è una canzone 1 minuto e 54, la canzone che per ora c'ha più spessore. Lei è Manigia, allora te lo dico io. Lei è Manigia, è la concorrente russa dell'Eurovision di quest'anno. Ah, quella là che si muoveva tutta. Sì, che ha cantato Russian Woman. Infatti sente la voce spacca questa. E si è prestata praticamente con la sua canzone, che è praticamente un inno alla libertà delle donne russe, si è prestata, insomma, a fare la parte, è una cosa quasi antifemminista. Non avete capito bene il testo, non avete capito. Abbiamo capito un cazzo. Ascoltato un po' il testo, però è un po' difficile, insomma. No, praticamente lei ha fatto La canzone era dedicata alle donne russe e al fatto che le donne russe, dove quella originale, dovevano ribellarsi un po' e uscire dallo stereotipo della donna russa. Questo uomo italiano è dedicato agli uomini italiani e che devono uscire dallo stereotipo dell'uomo italiano, dicendo: su, coraggio, ce la possiamo fare, usciamo dagli stereotipi, cioè non siamo sempre i soliti con mammoni che vivono con la mamma, che fanno queste cose qua, eccetera, ce la possiamo fare. Dice: dai, forza. E poi c'è anche la parte in inglese, dice: forza uomini, ce la possiamo fare a uscire dagli stereotipi, dice. Quindi però è comunque esattamente la stessa cosa della versione russa di Russian Woman, sì, però sì, fatta con l'uomo italiano, per incitare gli uomini italiani, una specie di inno agli uomini italiani da uscire dagli stereotipi dell'uomo italiano. Però diciamo, Luca, che si sente che c'è un po' più di lavoro, un po' più di profondità, no, su un brano del genere, anche comunque la voce è abbastanza particolare. È interessante sto brano, non mi... Sì, devo dire, molto. A me non mi è dispiaciuto. A me non mi... Luca, sei andato? Sì. No, sto qua. Sono un po' in difficoltà perché pensavo di venire a fare la missione a farsi due risate. Invece che loro mi fanno le esegesi dei testi di Ciao 2021, sono un po' in difficoltà. Nel senso, perché che vedevo di... Vi posso solo dire che stiamo a parlare dell'Eurofestival, dove c'è il peggio della musica mondiale. Quindi non penso proprio che cioè, il fatto che questa sia andata all'Eurofestival sia una sua cosa positiva. Ricordiamo, di sempre, no, loro pensano di terra di paura. È positivo per. In realtà è così, è variato. In realtà è positivo per il fatto che è andata all'Eurofestival rappresentando la Russia, rappresentando un testo che comunque la Russia l'ha fatta incazzare molto, cioè i russi si sono incazzati molto. Strano, perché insomma, perché comunque, sono così sportivi. Perché comunque la vita politica e sociale di questo paese non è proprio così libera come ci vogliono far vedere. Quindi, insomma, grande coraggio, manicia ci ha avuto, insomma. Quando avete parlato di Eurovision Russia, mi è venuto in mente il film, quello che stava su Netflix, la storia dei Fight Saga. Ah, troppo sì, bello. L'ho visto, sì, Lion of Love, il cantante russo Alexander Nebto, che era un gay, che però non poteva dirlo perché era russo. No, e i gay non esistono in Russia, lo dice lui stesso. Esatto, non possono esistere gay in Russia. Esatto. E quelli che esistono di solito li picchiano comunque abbastanza. Brutte storie, ma non ci pensiamo. Allora, io darei una menzione d'onore prima di andare al prossimo brano, a quello che abbiamo visto, oltre la gag, quella che abbiamo detto su Squid Game. Anche a parte poi prima che ha cantato Malici, c'è stato poi tutto l'intervento sulle varie Miss Italia, su Miss Lombardia, Lombarde. In pratica vuol dire Monte dei Pegni, quindi c'è stata sta battuta che nessuno ha capito, ovviamente, perché devo capire sempre, manco perché io non possiamo capire, certo. Manco io, però la casa a Gucci per me ha vinto tutto, perché io non ci ho capito un cazzo, però sono riuscita a capire il fatto che loro parlavano, praticamente doppiavano. Ho scoperto poi, informandomi, che si trattava comunque di testi, comunque di titoli delle canzoni di due cantanti famosi, una coppia di cantanti famosi che si sono prestati per doppiare questa casa a Gucci, e hanno fatto praticamente il doppiaggio in italiano in stile proprio russo, perché io vi giuro che lo stile del doppiaggio russo è proprio quello, cioè nel senso monocorda. Sì. Questo è tutto l'est Europa, addirittura, che erano proprio dei doppiatori originali di film del russi, cinema, del cinema, che si sono prestati a rifare lo sketch, a rifarlo in italiano. E poi non è che dicevano cose sensate, infatti praticamente elencavano solo i testi delle canzoni, i titoli delle canzoni. Infatti a un certo punto c'è la fine, quando Lady Gaga fa il segno della croce, che lei fa oh hey la hey, e là io sono morta, non capendo neanche quello che stavano a dire, cioè, ho detto ma questi sono pazzi, e poi dopo ho capito veramente ho toccato, mi è il piaciuto fondo, tantissimo fondo, cioè, quello mi è piaciuto tantissimo, quindi menzione d'onore, insomma. E poi che canzone ci abbiamo adesso? Dice che così facciamo. Bruci come incendio. Bruci come incendio, quindi è la prima canzone Vincenzo che. Vincenzo Marlini. Sì, è la prima canzone che compare nel. Ok, vado. Vai, vai. Ci evitiamo a me e noi, siamo insieme e litighiamo sempre poi, amore. Ma spero aggiustiamo tutta, amore. E questa sola sogna brutto, tesoro mio. E tu mi piaci sai, ti amo. Se ti arrabbi rossirai, arrabbiati di più allora, che sei più bella ancora. Bruci come incendio, sono agonia, mio amore, è amore, ho paranoia, la la la, la la la. Bruci come taglia pure. Sì, questa proprio è come incendio. Questa è proprio terribile, insomma. È orribile. Sì, questa è manco le spiagge di Dimi negli anni 70, cioè roba da. Ed è un brano contemporaneo russo di un cantanticchio pop russo, sì, ma un cantante, una roba veramente dimenticabile. Sentiamo il giudizio musicale di Luca. No, vabbè, io adesso vi lascio perché devo andare, ma diciamo mi piace molto, se voglio andare, questo concetto di incendio, come a incendio. Inch e Dio. E Dio. Come cercare di capire praticamente che qua l'autore ci viene a dire cosa? Invochiamo Dio che non possiamo invocare, ma facciamolo in inch, che è una tipica esclamazione russa. Inch. Esatto. E praticamente. Cioè, qui l'autore che ci viene a comunicare, cioè un messaggio potente, cioè un'invocazione a Dio, inch, non lo posso invocare. È una cosa molto triste. Su una musica allegra, una cosa che insomma che ci fa un po' fremere nella vita, no? Questa, perché quando metti una musica allegra su un messaggio potente sembra sminuirlo, in realtà gli dà più forte. E certo, certo. Sono stato bravo. Bravissimo, bravissimo. Bravissimo, detto questo. Buona cena, Luca. Detto questo, vado a mangiare. Grazie, un saluto a tutti. Grazie, Luca, grazie di essere intervenuto con noi come sempre. Non nominate mai il nome di Inci in vano. No, assolutamente. Ciao a tutti. Intanto ne approfitto per salutare in chat, giustamente, Melanie. Francesco, Walter Sbano, Rizzard, insomma, qualcuno. No, insomma, Walter non ci sta ascoltando, ah, no, doveva rispondere a qualcun altro. Okay. Allora, vabbè, ah, già, perché lui 2020-2021 no, non gli interessa, non lo sopporta. No. Vabbè, comunque andiamo avanti. Con... Sì, questa canzone è terrificante. Sì, insomma. Sì, no, altre cose non degna dimensione, anche se sì. Comunque una piccola cosa la posso dire, poi lascio la voce agli altri. Cioè, la voce lascio. Comprendiamo anche la difficoltà che hanno questi cantanti nel cantare comunque in italiano, quindi insomma. Questo sì, ma in realtà secondo me questo non è neanche più un problema, sì, di cantare, sì, questo è proprio scritto, cioè con quella metrica lì, perché incastrare le parole su una musica che ha una delle virgole musicali pensate per il russo non è facile, insomma, quindi in realtà l'avesse cantata in italiano sarebbe stato lo stesso. Il problema è proprio il testo, che non è adattabile a quel tipo di melodia, o perlomeno già avrebbero dovuto lavorare anche sulla melodia, insomma, quindi ci sta, dai, questo sarebbe la cosa, però diciamo che ecco, insomma. Ci saluta Mauro Monge, arriva e fa ciao come incendio. Esatto. Esatto, porco, esatto. Ince, porco ince. No, ma forse è esagerato, però facciamo finta che non l'abbiamo sentito. Vabbè, comunque c'è la canzone Sanremo di Vasco, allora, Vagulecci. No, perché quella è proprio la fine, quindi no, okay. Non ce la bruciamo. No, questa ce la teniamo. Se c'è qualcos'altro dopo, metti Margherita. No, Margherita. Volete partire con la o facciamo prima un altro su Margherita? Ci abbiamo da dire qualcosa. Sì, allora vai, facciamo Margherita, tu. Così poi parliamo di Margherita, no. Perché guardate che i brani sono tanti, Ok. Ok, va quindi bene. Margherita e poi parliamo di Valerio Leonci. Esatto. Valerio Leonci. Tanto ragazzi, cioè, sentiamo fino al ritornello, quindi. Beh, ma Margherita è interessante. Margherita è Margherita. Dopo spieghiamo perché. Da sola stai, sempre sola stai, di notte tu non dormi più. bene, va bene. Ci siamo. Vai. Comunque, chi è che spiega? Allora, sì, vabbè, diciamo che Margherita arriva. Ma questa non è manco terribile, voi, il cantante, no, il cantante in cui capirai il perché. Okay. Il modo in cui viene presentato il cantante è singolare, perché comunque tutto inizia qui allora da... devo. Vuoi già dire quello? No, allora, diccelo tu, che tu sei il tecnologico della è il momento retrocomputer. Yes, è il momento retrocomputer, quindi è tutto tuo. Che ha spaccato di più della, sì, durante la trasmissione, perché poi tutti i miei amici lì in quel momento sono esplosi, sì, perché è apparso un floppy disk da 5 1/4, sì, perché in pratica l'introduzione di questo cantante è stata fatta presentando un esperto tecnologico che avrebbe che dovuto stampare tu, comunque Carlo ti assomigliava. Allora considera che quello lì che è apparso è un blogger russo molto famoso, che Valentin Petrukov, che viene presentato come Valentino Gallo. E Valentin è un blogger russo che si occupa di tecnologia, diciamo così, il nostro Carlo Sant'Agostino russo. No, ma non è proprio Carlo, cioè non si occupa di retro informatica, ma proprio di tecnologia in generale. Non so un equivalente famoso nostro quale potrebbe essere, comunque un blogger che si occupa di tecnologia, e lì viene fatto presentare nostra Ranzulla russo, dai. Sì, ecco, diciamo così, un po' più simpatico di Ranzulla, forse. Oh, mia, Ranzulla sa, prende proprio il peggio, ecco. Esatto. Mazza, sono più simpatico di Ranzulla. Presenta ciao Ranzulla, si presenta è stato bello fare la radio. Ciao Salvatore. Domani allora, il server di Rantalum Radio non funzionerà più. Esagerato. Allora, che poi lo conosco, Ranzulla, non ti preoccupare. Allora, si presenta con un computer del 1985, un computer russo, molti non l'hanno riconosciuto, non hanno capito, infatti alcuni dicevano un 286, altri dicevano un vecchio computer, un Commodore 64, in realtà non è niente di tutto ciò, è proprio un computer russo del 1985, un personal computer russo molto famoso, si chiama Electronica BK0010 ed è proprio un personal computer di produzione russa molto specifico, perché viene prodotto in Russia con un microprocessore russo che era basato sull'architettura del PDP-11, era addirittura un 16 bit già nell'85, con un sistema operativo CPM, con il linguaggio di programmazione Focal, insomma una particolarità per chi ama il retrocomputing e la storia dell'informatica russa, di cui abbiamo parlato in 3-4 puntate di archeologia informatica, ma sull'elettronica non ci siamo ancora arrivati, è tutta una storia particolare che poi magari la faremo. Comunque bellissimo, tu ti vedi questo floppy da 5 1/4, questo computer, e il floppy viene inserito, vengono programmate 2 righe e piano piano dalla stampante dovrebbe uscire la foto del cantante che sarebbe dovuto apparire sul palco. La stampante è velocissima, poi la stampante ovviamente è lenta come la morte, però lì ovviamente sì, lo scherzo, dicono ah, oh, che velocità, che velocità! Per dire, fantastico, guarda già sta apparendo l'immagine. L'immagine che appare è alla fine Damiano dei Maneskin. Sì. Allora, dovete considerare che i Maneskin in Russia stanno avendo un successo strepitoso, sì, come tutto il resto del mondo, ma tantissimo anche in Russia, dove sono considerati ormai dei sex symbol assoluti e sono molto molto famosi. Però i vestiti, il modo con cui si veste Damiano dei Maneskin, che è un po' questo vestirsi tipo Little Shop of Horror, no? Sai, con le giarrettiere, con le vestiti di pelle. No, Rocky Horror Picture Show. Sì, scusami, Rocky Horror Picture Show, perdono. No, perché pensavo di avere vestito da pianta carnivora. No, hai ragione, intendevo dire Rocky Horror Picture Show. Ho avuto un confondo i musical storici, perdonami, ho confuso. Comunque, da Rocky Horror Picture Show, in realtà ai russi ricorda tantissimo questo cantante che si chiama Valery Leontiev, se non lo pronuncio male, che è un cantante russo degli anni 90, russo, molto famoso perché dopo la caduta del muro di Berlino, quando ci fu questa esplosione di libertà assoluta, tra cui anche la criminalità e tutto quello che ne venne fuori, ma anche dal punto di vista del pop, si uscirono fuori questi cantanti che iniziarono a vestirsi come mai avrebbero potuto prima, e quindi questo Valéry si vestiva all'epoca come Damiano dei Maneskin adesso, negli anni 90. Sì. Okay? Questo cantante qua è molto famoso in Russia, un po' per la sua eccentricità di come si vestiva così. Un po' perché c'ha 200 anni. C'ha 200 anni adesso perché era famoso degli anni, è un po' come dire da noi, non so, Ligabue, Vasco Rossi, ecco, è un cantante di questo tipo per i russi. E infatti questa canzone Margherita è proprio la canzone Margherita che lui ha cantato, un suo successo degli anni 90. Che poi è bella, cioè, la canzone di Danello è bella. Margherita è tale o quale, questa non è riarrangiata, è proprio la sua canzone Margherita. Okay. Tradotta in italiano, ma mantiene lo stesso testo e lo stesso nome come Margherita. La battuta che fanno poi di contorno è che al posto la canzone era dedicata a una donna che si chiama Margherita, lì invece fanno vedere la pizza. La pizza, la pizza, sì, ci sono i pizzaioli che comunque esatto, fanno niente, tutto il balletto, quindi comunque lanciano la pizza a destra e manca. Se cercate nei podcast su Google eccetera, troverete proprio le foto di questo Valéry Leon TF che era vestito negli anni 90 come Damiano, e ci sono tante foto che fanno vedere la comparazione di lui come era vestito con eccolo qua, lo trovo, magari la posto sul gruppo della diretta così la potete vedere direttamente. Comunque è anche questa dedicata più che altro al mercato russo. Ah, ecco, poi la battuta che dicono quando esce fuori Damiano dei Maneskin, dicono: ma questi sono i Maneskin, il gruppo russo che ha vinto, sì, l'Eurovision, che ha vinto, perché l'Eurovision, c'è sempre, è vero, il gioco è sempre questa inversione che loro sono l'Italia e noi siamo la Russia, no? Come succede per tutta la trasmissione, anche quando poi interverranno i cantanti italiani. Non so se poi vuoi dirla tu questa. Dopo la diciamo. Comunque Vargion in chat dice che Aranzulla a sto periodo sta pensando soltanto ad oliare gli addominali. Sta cosa mi ha fatto venire i brividi. Vabbè. Sì, ma ha ragione. Cioè, guardate, ecco, ho postato la foto. Comunque, sulla diretta, che è il post direttamente di Urgan Show di quando facevano, dove dicono che Damiano è la parodia di Valerio Leonci. Valerio Leonci, parodia patetica, Damiano di Sismaneskin. Fantastico, veramente fantastico. E allora, non mi ricordo quando è che appaiono le ginnaste, non in questa canzone, non in questa, ma No, non in questa di Margherita, ma in un'altra. Non so adesso. Sì, che sono canzone ci abbiamo? Le medaglie adesso d'oro. Ci abbiamo Giovanni Demetrio con Venere Urano. Ah no, su Venere Urano in realtà non è tanto la canzone che si ricollega. Venere Urano si ricollega, perché in realtà la canzone originale, ho scoperto che il titolo è tipo Venere Giove. Però prima della canzone Venere Urano è stata intervistata praticamente un'attrice che adesso non mi ricordo il nome, comunque un'attrice famosa in Russia, famosa anche perché ha partecipato a un film il cui set, che è ambientato nello spazio, il cui set si è praticamente, cioè i protagonisti del film e quindi tutto il cast è stato portato appositamente nello spazio per girare questo film. Sì, è una cosa che poi ha fatto tantissimo scalpore in Russia, perché si sono... sì, veramente. Perché praticamente secondo loro era l'unico modo per poter interpretare al meglio diciamo così le ambientazioni e comunque le sensazioni che si provano in assenza di gravità, e quindi si sono fatti portare sullo spazio. Ci sono tanti altri modi Per girare questa. Infatti la critica che c'è stata in Russia è stata proprio questa, perché dicevano: avete speso un sacco di soldi per spedirli nello spazio e girare il film nello spazio, quando lo potevate fare sulla Terra con gli effetti speciali, che costava molto meno. Sì. E tutta la critica, insomma, che c'è stata anche in Russia su questo film è questa. Poi vabbè, tutto è marketing in realtà, poi quindi questo film in Russia sta avendo successo, sì, proprio perché è un film girato, un film con un'attrice girato nello spazio veramente, cioè sì, spedita. Ma come si chiama il film? Un razzo. non mi ricordo. Mi ricordo perché non sono riuscita a segnarmi il nome. Però tra l'altro fanno vedere delle immagini. In realtà poi dopo scherzano anche su questo, perché l'attrice comunque racconta la trama tra virgolette del film, con Jurgant, prendendola in giro, dice che praticamente racconta questa trama in cui loro devono scoprire chi è che ha rubato il gel all'interno del gel per capelli all'interno della capsula spaziale, no? E fanno vedere questa foto di sta donna che sta praticamente coi capelli in aria, perché sta in assenza di gravità e quindi c'ha tutti i capelli in aria, e con gli altri protagonisti del film. Quindi è vero, è tutto vero. Okay. I russi sono andati nello spazio per girare bravi, un film. Bravi, bravi russi. Mi spendiamo sta guardando i soldi. Male mio marito, quindi non ci credo. ci credo. Sì, e sì, quindi Venere Urano è stato così tradotta per questo, insomma. Roma e Milano, manca il respiro a me. Venere, Urano, Roma e Milano. Manca il respiro a me. Roma e Milano, mano nella mano, non so quanto. Magari per loro sì, che ne sai. Per loro sì. Sempre cerco te e rispondi l'altra nel mio smartphone, c'è un errore, non so trovare la password per sbloccare il tuo cuore. Grazie amo le città dove siamo stati, non voglio stare senza te e non potrei lasciarti. Forse questa canzone non sentirai laggiù, ma sono sul tetto su a ricordar come sospiri tu. Venere tu di Urano, Roma e Milano, manca il respiro a me. Venere tu di Urano, Roma e Milano, mano nella mano, sempre. Venere tu di Urano, Roma e Milano, manca il respiro a me. Venere tu di Urano, Roma e Milano. Veramente le canzoni quest'anno sono povere, deboli, molto deboli. Anche se insieme a quella di prima, Margherita, ci abbiamo delle geek che ci aspettano alla fine. Io vorrei sapere com'è più o meno la tua lista delle canzoni, perché mi devo regolare un attimo. Allora, in questo momento, levata questa, mancano 2, 4. No, voglio sapere 5 più quella canzone che mi hai detto di mettere alla fine. Che canzoni te mancano? 5 canzoni. Allora, se vuoi te le dico. Dicele. Allora, però poi spezziamo tutta la spoilero tutto. Vabbè, dici la prossima, dicele. E poi dici la prossima. La prossima è in un momento. Ah, ok, la possiamo Dario ascoltare. Giracci. Sì. Dario Giracci. Questa qua è quella che, se non sbaglio, è quella dove c'è sullo sfondo le ragazze del nuoto che hanno vinto la medaglia d'oro. Ah, ok, sì. Che vengono. Hanno ospitato le vincitrici della medaglia d'oro di nuoto sincronizzato della russe e sono state usate per fare da, diciamo, ballerine in questa canzone. Sì, che poi tra l'altro sono state spacciate come campionesse italiane, insomma, anche là. Certo, come qui. A questo punto, vai, facci sentire. Così almeno acceleriamo anche un pochino, sì. E poi magari andiamo ad analizzare, che ne so, alcune cose. No, perché c'ho paura che ci sia una canzone, però dopo la vediamo. I giorni scorrono, ma io non la vedo. Sempre in piedi cammino contro il vento. Scrivimela, casomai. Il sole splende, ma quanti hanno detto cadrai 100%. Coloro la Torino grigia, le serve un sorriso. In quel momento scusate, nessun messaggio, non chiamate, no. Eppur la strada è mia dura, scelterò tutte le mura. Io non ho paura. In un momento i giorni scorrono, ma io non la vedo. Sempre in piedi cammino contro il vento. Il sole splende, ma quanti hanno detto cadrai 100%. I giorni scorrono, ma io non l'avverto. Sempre in piedi cammino contro il vento. Il sole splende, ma quanti hanno detto cadrai 100%. Gabi, piace o non piace? Ma niente di che, anche questa molto corta, no, mica non c'è. Allora, adesso poi te lo dico, te dico quale sarà, quale sarebbe, aspetta. Va bene, ok, intanto... Tu stai dicendo l'ultima canzone finale, intendi? Sì, la... ma non penso ce l'ha. Come non aveva quella iniziale, mi sa che non c'è neanche quella finale. Beh, quella è un peccato, quella ce la dobbiamo avere. quella non lo so, la canto io se la volete, però bisogna averla, la finale. Vabbè, provate a mandarmi un link, poi eventualmente... Vediamo. Puccio, ci sei ancora, Puccio? Assolutamente sì. Ti stai a comprare i libri in russo? Sì, stavo cercando. Ti sei comprato i libri di Tolstoj? Cioè, praticamente io sapevo che Tolstoj è un grande amante delle fiabe, anche italiane, è un grande scrittore di fiabe, quindi ho buttato a indovinare e finalmente ho indovinato una cosa che sapeva Carlo. No, questa mi ha stupito molto, sì, devo dire. No, io lo sapevo, vabbè, ho studiato letteratura russa, quindi magari lo saprò, l'avrò insomma. Ma che per caso scoperto. Hai studiato letteratura russa? Ho scoperto che Tolstoj è un grande scrittore di fiabe e i russi comunque sono, oltre che grandi scrittori di fiabe, grandi amanti di fiabe, quindi hanno proprio una grande tradizione, insomma. Mm-hmm. Ma andiamo avanti, che altre canzoni c'hai? Adesso andiamo avanti con Giovanni Urganti, ed è caduta la linea di Skype. Come è caduta la linea di Skype? Noi sentiamo tutti. No, vedevo la schermata blu su Skype, quindi c'era una cosa così un po' strana. Ti ho mandato il link dell'ultima canzone. Ah, su Skype me l'ha mandato, va bene. Ok, intanto, anche su Telegram. Ah, intanto musica... Ritmo e stile, Giovanni Urganti. Ma questo era il titolo, era quello che ti dicevamo se ce l'avevi o no, ma hai detto di no. Come, non mi avete detto il titolo? Sì, musica, ritmo sì, e stile. Stile. Vabbè, questa, va bene. Questo è l'inizio della sigla iniziale. È una canzone e allora russa c'avrà pure la finale, vedremo, se mi dai il titolo forse te lo dico. Non lo riesco a trovare. E allora non lo so. Ti ho girato il link. Ha girato il link. Telegram. Ce l'ho il titolo comunque. Ah, ce l'ho allora la canzone che dice Carlo, sì. Vedi? Vabbè, ma se voi non mi dite le cose. Ma... solo ritmo, solo musica, solo ritmo, solo musica. Questa che ricordiamo comunque fa riferimento. Fa molto freddo. L'inverno regna in città. Il testo praticamente è tradotto letteralmente dal russo all'italiano. L'anno vecchio sta già finendo. L'anno nuovo qui verrà, verrà, verrà. E stasera verrà, l'anno nuovo verrà. Gira, sta girando il file. Cavalli per me, tre cavalli per me. Solo musica, ritmo e stile. I tre cavalli. E stasera verrà, l'anno nuovo verrà. Gira, sta girando il file. Ah, vabbè, questa malaccio non è. Cioè... questa è una canzone russa dell'82 tratta da un film, era il film The Magician, ed è un film famoso in Russia che tratta proprio dell'inverno, sì. E quindi veniva visto spesso nella notte di Capodanno, sì. Insomma, questo, e quindi questa canzone è tipica per le feste di Capodanno russe, diciamo, quella originale russa, e lui come al solito l'ha tradotta in italiano rifacendo poi la sigla del programma di Ciao 2021, insomma, similmente a quello che fece l'anno scorso con un'altra canzone tipica russa. Un'altra canzone tipica russa di uno dei film che vengono comunque sempre riproposti nelle festività e non solo, insomma, nelle giornate tradizionali. E Leo ci dice che sembra Nelis Fiba stile disco e Lobby ci esorta a non trattarti male perché è quasi mezzo secolo, ma ma noi continueremo a trattarlo male lo stesso. No, mi state dicendo che anche i russi hanno il loro poltrona per due? Assolutamente sì, ce n'hanno più di uno di loro a poltrona per due. E il brutto è che quando che tu non stai, ho mai visto, tu quando vai a vivere in una casa russa per un mese, loro ti vogliono far vedere tutti i film che sono la loro poltrona per due. Esatto. E tu muori, certo, ti chiedi ma cioè, asilo sono politico al Kazakistan. Sono prodotto autoctoni, non roba che hanno importato. Sì. No, ma guarda che la filmografia russa è importante, è, cosa è importante. No, ma non solo è sterminata, ma è anche molto importante, perché comunque. Io passavo grandi maestri, passavo pomeriggio a guardare film, vabbè, film classici come quelli degli anni venti. È successo Russia, tanto anche dopo. E poi passavo pomeriggio a guardare film dell'epopea staliniana. E poi intervallo, cioè nell'intervallo guardavamo le soap opera spagnole sdoppiate in russo con un solo doppiatore, esatto, che faceva che poi questo tutti. Tutto l'est Europa era così, sì. Perché io comunque in Cecoslovacchia, in Ungheria, dove andavo la situazione era ma sempre io non quella. Riuscivo a staccarmi dalla televisione, anche se capivo veramente zero. No, io non capivo niente, però era veramente affascinante vedere, ne so, questi che parlavano uomo e donna, lei strillava e lui gli rispondeva e poi il cane bau bau bau waff waff, così era tutto così. Esattamente così che succede. Cioè, tu pensa a fare una roba del genere con un film di Mucci? Ma no, cioè, guarda, anche Friends. Io penso che lo abbiano fatto, sai qual è il problema? Puccio, io anche Friends ho visto così. Anche Friends, cioè veramente. Sì, tutto, una cosa che tu non riesci a staccarti dalla televisione, nonostante. Poi magari perché poi in realtà noi lo chiamiamo doppiaggio, ma in realtà è una cronaca fondamentalmente, sì, di quello che succede, sì, su schermo. Una specie di sottotitolo parlato. Diciamo che adesso almeno ci sono le voci femminili e le voci maschili che un po' saltellano. Prima c'era solo una persona che faceva tutto. Tutte le voci, perché cioè, era pagato dallo Stato. Sì, esattamente. E secondo esattamente. Me non solo faceva, ma secondo me aggiustava anche, diciamo, laddove è probabile. Avrebbe dovuto. Ma una cosa che ho scoperto guardando gli speciali di Ciao 2021 quest'anno per capirci qualcosa, visto che effettivamente era difficile tanti da comprendere quanto, sì, pure io, esatto, sì. Tutti troppi riferimenti russi, ho scoperto che uno degli attori italiani più famosi in Russia è Adriano Celentano. Sì, vabbè, quello sì, quello assolutamente. Cioè, per da loro è un dito assoluto nei cinema, nei, sì, film che ha fatto, sì. Sì. Chissà come sono tradotti in quel modo. Una collega, guarda, te lo dico io, Adriano ci si è dietro. Ma io ho avuto una collega russa di una certa età che lo diceva candidamente, che tipo era, che ne so, l'equivalente di Alessandro Gassman in quel periodo storico per loro, era Adriano Celentano. Io mi ricordo in un pub a Vilnius in Lituania, che a un certo punto tutte musiche gagliarde, insomma, che andavano de moda internazionali, poi mettevano Eros Ramazzotti e impazzivano tutti a ballare. Cioè proprio cose che noi. Ma Eros Ramazzotti era già un moderno. Cioè così una cosa. Sì, ho capito, innovativa. Però per far capire che comunque quel tipo di cultura all'est Europa, nell'est Europa spaccava, ragazzi, c'era niente da fare, insomma. Quindi, no, ma te ne devi andare. E questo molti ragazzi ne hanno giovato di questa cosa quando andavano. Puccio, dicevi, so. Scusa? No, ma ve ne dovete andare dal fatto che la Puglia come regione ha venduto quantitativi di vino mostruosi, perché c'è stata la mediazione culturale di Albano. Sì, vero, è vero. Che è sbarcato come cantante e poi ha fatto da ambasciatore per il vino. Mamma mia, ragazzi. No, io, vabbè, sembra che uomo puttana, di, cioè, merda, posso dire, veramente una persona, beh, disgustosa. Comunque, io anni fa, in realtà 2 anni fa, neanche tantissimi, fui chiamato da un'azienda che aveva, diciamo, subito una truffa informatica. Mentre parlavo con loro mi dissero: no, perché sai, avevamo questa spedizione verso la Russia. Io scherzando gli chiesi: ah, perché ne vendete tanto di vino in Russia? E dobbiamo dire grazie ad Albano. L'ho guardato come, cioè, vabbè, mi sta piglia per culo. E questo signore, insomma, di una certa età fu costretto a spiegarmi: no, no, guarda, che è stato lui che ha portato il prodotto lì e noi ci siamo accodati, abbiamo cominciato ad andare alle fiere, eccetera, eccetera. Lui, lì, come cantante, è molto amato, e quindi quello che dice lui lo ascoltano e noi ci siamo infilati. Che schifo, che schifo, che schifo. Vabbè, dai, non mi fate parlare d'Albano perché mi sale il cringe, come il cringe. Ma d'Albano parleremo fra poco. Fra comunque, poco parleremo. Comunque, allora, che canzoni c'hai? Comunque, c'è Lucia Ciabatta, che giustamente con cognome del genere poteva cantare una canzone che è una menzogna da, già di suo, insomma, perché la canzone è Sole a Milano. Ah, ok. Perché sole a Milano. Ora poi bisogna capire se intende sole. Sole, sole, cioè sole, da sole, sole o che c'è il sole a Milano? Sì, sì, sì, che fa la canzone sole. Tipo Sonsina a Monaco, quindi sole, esatto. A Monaco, quindi e più o meno. Oppure sole a Milano, cioè che ti danno le sole. No, anche. No, no, sole, sole. La luna perché i tuoi occhi brillano tanto, che non c'è più senso se tu non ci sei. Comunque sembrano tutti uguali, cioè nel senso. Sì. Ma non le canzoni, anche le voci, cioè sembrano un cantante e una cantante. Ma guarda, veramente, quest'anno secondo me anche gli arrangiamenti e tutto sono stati sottotono rispetto all'anno scorso. Comunque è brutto proprio, cioè foneticamente. E te? Non è brutto. È brutto. Senti, non è brutto. È brutto, brutto. Senti, senti, scusa, è brutto. No, no, non è brutto. È brutto, poi è brutto. No, tu non poi puoi ti può piacere, ci può essere affezionata. Quello che possiamo noi imparare questa brutto. Questa che tu senti? Cioè, è veramente un incubo per noi imparare questa lettera, che poi è una lettera dell'alfabeto cirillico, che è una del cavolo. Quindi non è brutto, perché non è brutto. Ma anche quelli dell'invasione degli ultracorpi l'hanno imparata facendo piacere. E poi, tra l'altro, prima di finire dobbiamo fare una menzione d'onore anche a Sergio Brunello, Vabbè, questa canzone è completamente inutile. Certo. Possiamo dire che Sì, non perché si chiama Sole a Milano, è una canzone molto famosa in Russia al momento, che è stata tradotta con Sole a Milano, con le sole a Milano, fanno le sole a Milano, vai a Milano. Ma questa, in realtà, questa cantante qui, Luisa Cebotina, che non so come si pronuncia, che poi è tradotta come non so, io ce l'ho scritto in cirillico qua, quindi non saprei minimamente. È una cantante molto giovane, ha 20 anni, 22 anni, è una cantante famosa quest'anno, uscita con questa canzoncina che si chiama Your Kiss, che nel ritornello dice Sole a Monaco, ma tradotta come Sole a Milano, ma direi una cosa dimenticabile assolutamente. Sì. Anche perché questa al sole l'ha vista a Monaco, l'ha vista a Milano. Nel frattempo sulle dirette praticamente compare una bellissima foto di Simone accompagnato da Stalin, reale, foto reale, e c'è Leo che dice: dopo qualche secondo mi è apparso Stalin, dopo qualche secondo. Quindi sono bei momenti quelli, Tavarish mi ricordo, anzi, se c'ha la foto in alta risoluzione mi ci faccio un ingrandimento io. faremo un ingrandimento a Daveni Baffone. La tornata è arrivato, baffone, è arrivato qua, ti vedi. Vabbè, sono bei momenti, oh, ragazzi, ma che ne volete sapere? Perché voi? Perché quando io ero in Russia nel 2003 c'era pure Simone. No, io non c'ero. Vabbè, c'eri, guarda, c'eri, c'è la foto di Deco Stalin. Ah, c'eri. Ok. Scusa. Okay. Comunque, menzione d'onore la dobbiamo dare a Sergio Brunello, l'attore che interpreta questo sceneggiato, che in qualche modo, cioè, palesemente, insomma, riprende quello che è la Piovra e la quarta stagione, mi sembra, della Piovra, in cui sì, il commissario Cattani viene ucciso. Sì. Esattamente quella scena viene sì, reinterpretata, e anche questo è una cosa che ho scoperto anche questa leggendo poi i significati, diciamo, 2021, è che la Piovra per i russi è una cosa fondamentale, sì, cioè l'hanno vista tutti, sì, la conoscono, sì, tutti. Confermo. È una cosa che è come Questo, so questo lo sapevo anche io, sì, è vero, perché sì, anzi sì. Se, sì, ne par- se, ne parlava, se ne parlava già molto all'epoca, soprattutto sì, quando ovviamente il commissario viene ucciso, no? Nella quarta stagione, che è una cosa che già sconvolse anche molti italiani, no? Nel senso che comunque, e che quello era il prodotto italiano più venduto nel mondo, in particolare era amatissimo in Russia. Assolutamente, sì, ma super amato, cioè proprio una cosa che non c'è un russo che non conosce, che non abbia visto la Piovra, la Piovra, sì, tutti, sì, dai piccoli ai grandi, ai, ed è proprio una dei fondamenti, diciamo, della televisione, dei fondamenti televisivi russi. E lì riprendono esattamente la scena dell'uccisione del commissario, in cui poi c'è appunto, sembra, vedendolo, una presa in giro proprio degli stereotipi italiani, no? Sì, perché è una presa in giro, perché mentre la scena della morte dura tantissimo, con questa mitragliata che dura, beh, c'è la presa in giro dei mafiosi che arrivano con lo scooter elettrico, col monopattino elettrico, e mitragliano, sì, esatto, mitragliano il commissario e lo mitragliano per 3 ore, intanto lui, mentre viene mitragliato, mangia la pasta, gli legge la gazzetta, la gazzetta dello sport, insomma, fa tutte delle cose tipiche. Vabbè, ci sta come ironia, ci sta come ironia, anche se c'era un motivo per cui quella scena è durata così tanto, proprio per l'iperdrammaticità. Noi non eravamo neanche abituati a vedere cose. Sì, sì, quella è durata era così tanto, ma in cui il rallenti lo usavano per sottolineare i momenti drammatici. Sì, ma in realtà non era un rallenti, cioè registicamente era proprio così, cioè era proprio fatto apposta, perché comunque quella scena doveva rimanere attaccata fino all'ultimo, quando poi ovviamente il personaggio lasciava, quindi andava, moriva, no? Era proprio un modo di tenere molto in tensione, incollata la gente in un momento quasi anche di incredulità, no? Cioè, quindi c'era proprio una motivazione specifica che era figa, tra l'altro, soprattutto perché noi non eravamo neanche abituati a vedere scene di quel tipo, no? Quindi non eravamo abituati ai protagonisti che morivano, come ha detto anche qualcuno. Sì. Comunque, una cosa da dire, la scena inizia con una scritta sul muro con scritto la mafia è immortale. Ecco, e lui arriva, il commissario, e cancella con il pennello le prime due lettere, sì, cioè im. E quindi diventa la mafia è mortale. E poi lo uccidono. Che poi rimane, e poi lo uccidono. La mafia è mortale perché lo uccidono, la mafia è mortale perché la mafia si può uccidere, questo non lo sappiamo. Comunque, in realtà, poi loro quando parlano, a parte la mafia è mortale nel senso che ti ammazza, cioè. Sì, in tutti i sensi. Sì, ma in realtà, quando loro parlano, si capisce nella traduzione ovviamente russa di quello che loro stanno dicendo, che mentre la cosa è assolutamente una presa in giro e sembra una ed è comica, giustamente, perché è la presa in giro di quella scena, loro parlano tradendo quella comicità, dicendo invece cose serie, come per dire: quelli non sono gli stereotipi, cioè gli italiani non sono così, quella è una presa in giro. Mm-mm. Loro stessi lo dicono mentre ne parlano, e ne parlano seriamente, quindi è una cosa un po' complessa da capire, veramente è quasi un modo di una specie di scena in cui si denuncia il fatto che gli italiani vengono sempre visti in quel modo lì, no? Spaghetti, mandolino, mafia, quando in realtà non sono così spaghetti, sì, mandolino, mafia. Sì, ed è una cosa che è diretta sia al pubblico, al pubblico russo, che vede sempre gli italiani così, sia in generale, se vogliamo, un po', forse anche. Sì, infatti io l'ho vista comunque come una più che come una presa in giro, sicuramente come una presa di coscienza anche nei confronti dei russi stessi, che in qualche modo si coprono, diciamo così, di stereotipi e coprono il nostro paese di stereotipi. Quindi l'ho vista anche come una presa di posizione da parte di Ivan Urgant, che comunque ricordiamo che alla fine lui, il creatore di Ciao 2020, quindi grande genio, ma anche grande persona, cioè veramente dotata di grande intelligenza e di grande conoscenza a livello anche culturale, quindi secondo me ci ha voluto mettere qualcosa di profondo dentro. Lui oltretutto è anche grande amante dell'Italia, viene spesso in vacanze in Italia, e cosa anche questa che ho scoperto, per il Ciao 2020 dell'anno scorso è stato insignito di una onorificenza italiana. Sì, dal console italiano. Esatto, gli hanno dato una medaglia per per essere portatore della cultura italiana all'estero, qualcosa sì. del genere. Questa non me l'aspettavo, comunque anche questa gli hanno dato. Ragazzi, io vi devo abbandonare per causa di forza maggiore, cioè ha fatto effetto l'antipiratico e credo che mi sto addormentando. Okay. Ok. Allora, ciao, allora, ciao Buccio, grazie. Andiamo direttamente alle ultime due canzoni, quella di Sanremo. Sì, no, no, c'è prima di... un'altra canzone ancora, cioè, e poi ci sono le ultime due canzoni che tu dici. Prima Sanremo e poi l'altra. No, prima c'è La mia Michela insieme a Eva Pollini. Okay, ascoltiamola un po'. E L'inverno nel cuore, vai. Una cosa del genere, insomma. Questo è il blue screen più orribile della storia della televisione. Il green screen. Lo dovete vedere. C'ha pure un intro bella lunga, insomma, per essere una canzone di 2 minuti e 30. Italiane e come le... Vabbè, dai. Sì, non è granché. Mai Michelle e Eva Pollini. Winter in the Heart. Ah, ecco perché mai Michelle. Winter in the Heart. E loro l'hanno tradotto come La mia Michela. Sì, no, menzione, la menzione va fatta soprattutto per il green screen, che è veramente una cosa orribilante. Cioè, veramente le scene più brutte. Vabbè, magari viste, sarà fatta apposta. Sì, sicuramente. Sì, sì, sì. Queste tute da sci, veramente anni 80. E poi è una canzone anche abbastanza vecchiotta, pure questa. Non è. Sì, sì, può essere, può essere che stanno, se so, concentrati più sui contenuti piuttosto che sulle canzoni. Sì, sono concentrati sui contenuti. Assolutamente. Sì, ma anche se secondo me c'è stato un po' di sgambettamento su chi voleva partecipare, quindi hanno dovuto scegliere comunque i classici della Russia e pop. Se tu guardi, come ho detto all'inizio, questi sono tutti cantanti, anche queste due sono cantanti storiche russe, sì. Non sono cantanti moderne, sono sì. cantanti che andavano in moda negli anni 90 sì. in Russia, come tanti altri di questa trasmissione, sì. cioè quest'anno le canzoni sono state incentrate più su cantanti vecchi russi, famosi già in Russia negli anni passati, e quindi ci siamo persi un po' quella novità che abbiamo invece ascoltato l'anno scorso con gruppi russi moderni, che quindi ti davano anche una novità anche da questo punto di vista, e delle canzoni che poi erano decisamente più ascoltabili l'anno scorso, sia le versioni italiane che le versioni sì, ma io dico pure la qualità della produzione del brano, quindi del riarrangiamento a livello di ricerca dei sonori. Quindi è tutto molto più piatto, no? Diciamo, e questo sì. mi fa pensare non sul fatto che non fossero in grado, perché l'hanno dimostrato di essere in grado, quanto proprio che secondo me si sono veramente concentrati su altro, perché comunque le canzoni non erano neanche più la novità, insomma, diciamo, quindi magari volevano cercare di sfruttare il grande canale che avevano creato per mettere contenuti che ritenevano più importanti, no? Da un certo punto di vista, però i contenuti erano tutti dedicati molto alla Russia. Appunto, al pubblico russo, a maggior ragione, non al di fuori della Russia, che poi era così, era così pure l'altro anno. Ma poi quindi, dato che i contenuti erano dedicati alla Russia, sono intervenuti degli amici russi. Anzi sì, no, sono intervenuti degli amici, sì, degli amici russi, mi sto confondendo, sono sempre le 11 anche per me, che praticamente ci hanno fatto fare la vola, perché i messaggi dei cantanti russi in russo non erano altro che i nostri cantanti italiani, che comunque in Russia amano tantissimo, come Anton Kutuzov, che in realtà è un famosissimo eroe militare, famoso per aver sconfitto una Napoleone, quindi ce lo ricordano in tutti i modi, in Russia, dovunque. E Kutuzov, non mi ricordo come si pronuncia, che in pratica non era altro che Toto Cutugno, che saluta gli amici italiani in russo, e i Matia Bazar che vengono cioè, era tradotti. Proprio lui, Toto Cutugno. Ma ancora vivo? Sì. Semivivo. Non c'aveva una bella cera, ci avranno ottantina d'anni. I Matia Bazar, i nuovi Matia Bazar che vengono tradotti come i venditori del mercato di Mitinskoi, di Mitinskoi, i ricchi e poveri. E Fedez, tutti loro salutano tutti i russi. Sì, anche se Fedez, non è famoso in Russia. Non è famoso, però la Ferragni sì. Esatto, è stato inserito perché la Ferragni è famosa in Russia, e lui, Fedez, è stato famoso l'anno scorso in Russia come meme, perché ha riballato la canzone dei ricchi e poveri nello stile in cui la ballavano l'anno scorso nella trasmissione in Russia, come si chiamava lì, i piccolo grandi, vi ricordate come ballavano? Little Big, Big, ecco, e lui ha interpretato quel pezzettino lì, e quindi è stato inserito non come cantante, ma perché è famosa sua moglie, cioè la Ferragni, come blogger secondo me. E magari è amico, magari è amico di Ivan Jurgant, chissà. Ma io una influencer italiana come la Ferragni in Russia, che è tanto famosa, ma cioè vuol dire che loro ascoltano i contenuti in italiano, oppure no? Ma la Ferragni solo è famosa in tutto il mondo, pure in America, purtroppo. Ma perché è famosa per lo stile italiano, per la moda, quella che a noi non piace, le cagate lì, tipo i rossetti, le minchiate. Sì, ho capito. Quelle robe lì. Infatti c'ha il suo marchio Ferre lì con l'occhio, com'è che si chiama il marchio quello suo della Ferragni, che è diventato famoso come marchio di cose di lacca di capelli, spray, profumi, insomma tutte quelle robe lì. E siccome lo stile italiano all'estero piace, lei è famosa per questa roba qui. Ok. Cutugno, come si dice, la B non era già Badiat, abbastanza sì. Comunque, e infine c'è Albano, che ci racconta che ovviamente famoso cantante russo, che ci racconta che lui ha sempre sognato di andare a Sanremo. Okay. E qua parte il marchettone con la canzone che ascoltiamo con due cantanti famosi, molto famosi in Russia. Tra l'altro, uno dei due cantanti si chiama Basta, no, Sfera e Basta, ma si chiama solo Basta, ma Basta veramente. Cioè la canzone mi sa che è detto Basta. Ci riuscirai. In ogni strofa, in sono un bello, il maestro vive nel suo allievo. Il mio cuore la scelta farà, da sempre cerco la canzone per cantarla qua. Ci hanno detto è troppo tardi per cambiare. Meglio di noi, quando non ci saremo, il festival di Sanremo, continuerò, e il successo resterà, e spero un giorno potremo, le voci di Sanremo. Ci saremo, il festival di Sanremo, continuerà. Vabbè, questi due c'è da dire. Beh, diciamo che questa ce l'ha un po' un richiamo nostalgico, sì. Qualcosa questa è una canzone del 2016, quindi c'è già qualche anno, sì. Ma non è vecchissima, quella originale russa, chiamava voce perché questi due cantanti qua, Basta, cioè Vasco Vakulejci e Polina Gagarini, sono i giudici dell'edizione di The Voice russa. Ah, ok. tutti. E la promessa finisce con la promessa di Ivan Jurkant, di Giovanni Organti, che ci dice: ci vediamo a Sanremo. Brutta storia. E io ci spero tantissimo. Brutta storia. E io ci spero tantissimo. Ma poi sembra finito tutto e appare un orologio, che è l'orologio del Cremlino. E esatto. Vuoi andare avanti te, Carlo, che io sono rimasta veramente esterefatta lì. Ma guarda, lì siamo rimasti tutti esterefatti, perché ormai era finito e tutti avevano detto: vabbè, è finito, vabbè, dai, sì, carino, bello, vabbè. Non abbiamo ancora raccontato altri due episodi carini, che era la pubblicità, quella della Pepsi, e altre due o tre cose, quella della lavatrice, però vabbè, magari quelle le saltiamo, tanto vabbè, quella già della lavatrice tanto. È una genialata comunque, veramente. Quella della lavatrice sì, fa morire da ridere, ma quella ve la potete anche guardare nella trasmissione, perché fa solo ridere e basta. E alla fine appare questo orologio che batte la mezzanotte e tutti ormai è finita, anch'io mi stavo alzando dal divano per andarmene e appare lui. Appare lui, cioè, ti faccio una parentesi, lui. Da sempre dall'epoca staliniana, praticamente il discorso del presidente della Repubblica a Capodanno della Repubblica e comunque di quello che è in Russia, della dittatura o quello che è, non si fa alle 8:30 di sera come succede da noi, ma a mezzanotte. Quindi a mezzanotte il presidente appare e fa il suo discorso. Vai avanti, vai avanti. E quindi appare il presidente dell'Italia, che però è Putin, ma non uno che somiglia a Putin. Putin, tanto che tutti si sono caduto sulla poltrona. Non era Putin, Putin davvero. È con lo sfondo del Colosseo. Esatto, ma sono quasi tutti convinti, e ho letto un po' in giro, molto probabilmente è così. Non è un sosia, ma è un deepfake, perché è veramente uguale a Putin, anche ma nelle movenze, e poi anche chi lo imita dietro, quindi è un deepfake fatto bene con anche uno che lo imita bene, quindi veramente sembra Putin e parla come Putin, con l'accento di Putin, la voce di Putin, le movenze di Putin, tanto che per un nanosecondo stai credendo che apparso Putin sul serio in televisione, che parla italiano e fa finta di essere il presidente dell'Italia, dove fa il solito discorso di fine anno che fanno sempre in Russia, che è un alla discorso Putin. Sempre alla Putin: siamo forti, siamo fighi, vinceremo noi, siamo quello che vogliamo, lo faremo e ce la faremo. Ce la faremo in italiano, e questo è assolutamente destabilizzante, sia per noi che l'abbiamo visto che appare Putin che parla italiano, ma anche per gli stessi russi, che io ho sentito i commenti di 2 o 3 che, a parte che proprio gli occhi fuori dalle orbite, come dire, come hanno fatto a convincere Putin a fare una cosa del genere. Poi io ero convinta, cioè per le prime ore ero convintissima che fosse lui, cioè ho detto non è possibile. Ma come? È veramente una cosa incredibile. Infatti la botta finale è stata quella, e lui alla fine cosa fa? Questo discorso, e poi annuncia una canzone del suo gruppo preferito, che in realtà lui non ha mai detto che quello fosse realmente il suo gruppo preferito, però in Russia si dice che quello sia il suo gruppo preferito, perché è un gruppo storico russo, quindi sono tutti vecchi. Infatti Liube si chiama il gruppo, esatto, Liube, che canta di solito canzoni russe molto patriottiche. Infatti la canzone che cantano in russo si chiama Dal Volga allo Genisei, ed è una canzone che tratta di tutte le bellezze geografiche russe, e viene tradotta in italiano come Amore l'Italia mia, dove vengono tutte traslate le bellezze russe nelle bellezze geografiche. Infatti dall'Etna alle Dolomiti e da Bari a Reggio Emilia, che da Bari a Reggio Emilia praticamente è la frase che ci porteremo dietro per sempre. Esatto. Insomma, perché comunque la canzone si chiama Solo l'Italia mia. Vai. E Amore sarebbe l'autore praticamente. Il gruppo. Una parte fortissima. Questa va sentita tutta, perché è un capolavoro. Nella piazza di notte il mandolino canta, è la musica dolce. Vi invito poi a vedere il video, perché comunque senza il video non rende, che senti la musicalità russa. Accanto a te una canzone italiana suona per te. Dalle eh sì, senta in canzone russa. L'Italia, l'Italia mia, da Napoli fino a Sicilia. Dall'Etna alle Dolomiti, colline e prati fioriti. L'Italia, l'Italia mia, da Bari a Reggio Emilia. Salutiamo Reggio Emilia. Bellissimo, è una canzone russa. Sentite Italia, Italia, Italia, Italia, Italia, Italia. È finita, ma il colpo di genio finale, cioè, qua mi sono risvegliata, perché c'è stato un momento in cui mi stavo un po' abbioccando, perché io poi sono famosa, dopo le 10 comincio a morire e... aspetta. Capito, sì. Vabbè ragazzi, notevole, notevole, carino questo pezzo finale, molto sovietico. Sì, assolutamente. Mi ricorda un po' le, sai, quelle, quanti bei ricordi. La banda, quella, come si chiama la banda, quella del, la banda Bassotti? No, quella che fa il giro comunque del mondo, che è venuta spesso in Italia. Vabbè, ma non mi viene. Comunque quelle diciamo così, quei cori russi che vengono. Il coro dell'Armata Rossa. Sì, dell'Armata Rossa. Esatto, sì. Vabbè. Quello che ha portato a Sanremo l'ha portato. Che io farei anche notare, sì, il fatto che si chiama ancora Armata Rossa, tra l'altro. Sì, si, cioè, chiama ancora Armata. Io questa cosa la farei notare, insomma. Che ha portato a Sanremo, mi dicevi? Toto Cotugno l'ha portati a Sanremo, il coro dell'Armata Russa. È vero, quindi... è vero, c'hai ragione, c'hai ragione. Comunque, grande lavoro. Io devo dire, vabbè, confermo quello che ho detto inizialmente, nel senso che l'effetto sorpresa in cui mi sono detta ma che cazzo è sta cosa è passato, ma comunque rimane un grande cuore per questo Ciao 2021, almeno dal mio punto di vista, perché comunque ho amato molto, anche se non è stata la stessa cosa. Vabbè, lo sapevi, continuo... non poteva esserlo, quindi. No, continuo, esatto, a essere, continuo a essere follemente innamorata di tutta questa produzione, insomma. No, chissà se veramente ci vedremo a Sanremo, chi lo sa. Secondo me, io lo ma spero. Più, allora, quello di Sanremo non lo so, però una cosa che emerge è che sicuramente lo stanno facendo diventare un prodotto seriale. Sì. Cioè, questo è chiaramente, perché il format è lo stesso e ci sono tante cose che sono ripetute come se dovessero diventare poi il format che fai tutti gli anni. Anche e Asti, a Natale, quindi c'hai spumante, quindi... Asti, che in realtà non, sì, è uno sponsor, vabbè, vero, cioè, le pubblicità dentro, sì, gli intermezzi, cioè questa ribaltamento dell'Italia che diventa Russia, la Russia che diventa Italia, che è un po' il filo conduttore di tutta la trasmissione, la che ricordiamola è comunque una trasmissione russa pensata per i russi, ah, che poi noi, siccome c'è dentro l'Italia, ce la guardiamo e ce la godiamo anche noi, e diciamo è un effetto collaterale, ecco, anche per loro in questo, sì, senso. Però si emerge il fatto che lo stanno facendo diventare qualcosa di seriale, molto probabilmente probabilmente. Beh, da una parte speriamo di no, da una parte no, nel senso. Diciamo che comunque in realtà il fatto che diventi in qualche modo seriale ci sta anche, perché comunque c'è quel c'è quel ponte che ci è mancato, cioè nel senso, magari io che un po' l'ho vissuta la Russia ho capito, e penso vabbè più o meno tutti l'abbiamo capito, quello che è l'amore nei confronti dell'Italia da parte dei russi. Però in qualche modo c'è un momento in cui, cioè, io mi sono sentita come magari se adesso non amore in senso globale, perché non è detto che tutti l'amano, ma sicuramente fa parte della loro cultura, del loro, e mi sono sentita in qualche modo come se adesso il pubblico italiano in qualche modo stesse ricambiando, capito, stesse in qualche modo anche conoscendo qualcosa di più della Russia. Sì, anche se l'altro anno l'atteggiamento, la risposta è stata un po' scomposta, no? Per esempio già pure i ragazzi di Propaganda Live, secondo me non l'avevano, cioè hanno fatto quella cosa con la cantante russa alla quale gli avevano fatto sentire una cosa che non faceva ridere per niente, cioè nel senso, no, non l'avevano capita, non l'avevano capita, esatto. Vabbè, però sì, secondo me c'è sicuramente Ciao 2022 al 99,9%. Vabbè, noi ormai non vabbè, c'è noi primo, i nostri speciali li abbiamo fatti, non c'è basta, primo certo dell'anno in cui non c'è un ciao, cioè a un certo punto il nostro capodanno si traslerà. Vabbè, comunque la più bella è questa qui, primo dell'anno, quella della sigla finale, Margherita. No, a me piace di più Fiat. Io preferisco quella del ragazzo con la giardinetta. Del ragazzo con la giardinetta. L'ho completamente elevata adesso. sono rimaste solo ste tre, però Margherita, Margherita è anche un personaggio importante della letteratura russa, quindi sicuramente chissà a cosa si riferisce la canzone. E vabbè, dai, io direi che se abbiamo altro da dire. No, io ho detto tutto. Ok, cioè, Carlo, tu hai altro da aggiungere? Sì, ma ovviamente non lo faccio perché se non finiamo più, quindi va bene così. No, vabbè, comunque un commento in generale al di là del Ciao 2022. Ecco, se vuoi chiudere insomma magari un pensiero, così lo fa anche Michele, e poi salutiamo. Vabbè, un pensiero: tra poco finiremo il documentario sul museo del videogioco di Avezzano, che avrebbe già dovuto andremo a San Pietroburgo, perché ovviamente dobbiamo completare questo lavoro sui musei del videogioco, e andremo a San Pietroburgo. A San Pietroburgo, vabbè. Però prima c'è quello in Croazia, che poi è un po' più vicino, magari. Vabbè. Sempre Covid permettendo, insomma. Vabbè, quindi ragazzi, presto. Allora, insomma, io saluto intanto tutti quelli che sono intervenuti in chat, ovvero Leo, Vargion, Mauro, Lilith, Lobby, e sembra basta, insomma. Vabbè, poi se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa. Grazie a tutti, perché veramente è stata una serata molto molto divertente. Io sono molto contenta che ce l'abbiamo fatta, nonostante l'abbiamo preparata un po' maluccio e la regia ci ha strillato, però noi siamo bravi lo stesso. No, ma va bene, perché in realtà poi uno va anche a braccio, però poi non me lo vedete di ah, non c'è l'ordine giusto, perché io poi vi dico i morti, capito? Scusate, a proposito, diciamo anche che questa trasmissione doveva andare in onda domenica, esatto, ma è stata rimandata per cause di forza maggiore. No, è stata per così, voglio così essere... avevate il tempo di prepararvi, perché, infatti perché, si è visto, perché, perché? No, non voglio essere nelle orecchie di Michela cosa è successo domenica sera. Io ho dormito, guarda, mi sono chiusa in camera e ho dormito. No, perché no, vabbè, ma era tutto sommato, guarda, tutto sommato non è andata così, poteva andare peggio, insomma, quindi... no, addirittura sì, vabbè, sì. Sì, ma poteva anche finire, diciamo, in pareggio. Ho sentito insomma più bestemmie dal vicino di casa che guardava la Roma. No, nel, ma io ero preparato. Che ha perso con la Juve, esatto. E lì ho sentito proprio. Beh, lì è stata peggio, perché la Roma vinceva 3-1, ha perso 4-3. Insomma, lì sì, e bestemmie si sarebbero sprecate. Allora, grazie, molto figa la trasmissione. Ma dite che si trova anche senza mare al torrente. No, si trova su YouTube comunque, su YouTube, se vuoi. YouTube, basta cercarla tutto su YouTube e la trovi tutto. Quindi, sì. Senza, tranquillamente, insomma. Si trova tutto, grazie Mauro. Bene, comunque, grazie Mauro. Allora, ricordiamo Archeologia Informatica, andate su YouTube, cercatela. Salutiamo anche i reduci che ci hanno abbandonato prima. Se può fare un discorso, dopo saluti. È già la terza volta che cerco di iniziare. Allora. Vabbè, okay. Quindi YouTube, andate, cercate, iscrivetevi, attivate la campanella. Mi raccomando, domani mattina Anche se insomma non eravamo un po' incerti, a quanto pare insomma dalle 7 alle 8 il podcast, no, il mattino all'ora in podcast con Leo Varghion ovviamente sarà tranquillamente e regolarmente in onda. Giovedì ci sarò io ovviamente con Buongiorno un cazzo e poi a seguire tutto il resto della settimana. Per quanto riguarda invece le orazioni della sera, già da questa sera, ma insomma anche martedì, ma anche mercoledì e giovedì, andrà in onda sempre dalle 20 alle 20.30 circa giù di lì. Giovedì sera in teoria ci dovrebbe essere alle 21.30 la puntata di Quando eravamo futuro, ma non abbiamo avuto feedback da Davide Gatti da diversi giorni, quindi o ci improvvisiamo una puntata oppure saltiamo, e forse venerdì sera ci sarà una puntata di Runtime by Night dalle 23 in poi. Insomma, adesso vediamo, ci organizziamo, ma questo più o meno è sono le nostre intenzioni. E poi c'è ovviamente sabato dalle 8.30 alle 9.30, insomma, siamo io e Michela con Disordinati Informatico, quel meraviglioso crossover che facciamo, insomma, con Buongiorno un cazzo. Detto questo, io direi che ringraziamo tutti per questa serata molto carina, e ringraziamo chiaramente Michela perché l'ha sostenuta e l'ha voluta tanto, e Carlo perché tutto sommato oramai è un po' un binomio su questo tipo di cose. E tra l'altro ricordiamoci che forse, se ce la fanno, inizieranno a fare un road to Eurovision. Guarda, Eurovision. Lo faremo partendo, lo posso già annunciare, sicuramente lo faremo partendo da Sanremo di quest'anno. Okay. Che assolutamente, Quindi, che a febbraio. Faccio il fioretto e mi guardo Sanremo, anche se non avrei voluto, perché non ce la posso fare, però lo guardo perché comunque mi devo preparare per questo speciale. Avremmo voluto farlo in una maniera un po' più diciamo così autentica, cioè presentarci all'Eurovision e andare proprio a rompere le scatole alla gente, ma non si può, il Covid non ce lo permetterà, e quindi lo faremo da qui, ma saremo bravissimi lo stesso. Tanto rompiamo le scatole lo stesso, insomma. Sì, allora io vi dico a tutti, spacco i noci, come direbbero i miei drusia, ruschi drusia, quindi i miei amici russi. Assoreda. Buonanotte a tutti, che bella la Russia, ragazzi, tocca tornare. Comunque vi ricordo anche che domani esce il film che doveva uscire oggi, che in realtà era uscito ma l'abbiamo ritirato per errori di rendering, Un'estate da cani di We Want to Live in a Box, che torna questo progetto, anche se si è un po' trasformato, perché non è più ovviamente il canale che faceva piccoli video di viaggio, ma è un canale che pubblicherà saltuariamente dei film tematici con dei racconti, insomma, su quelle che sono le nostre esperienze e quello che vogliamo condividere con voi. Ma volevo anche dire un'altra cosa, me la sono scordata. Ah sì, www.runtimeradio.it, se vi capita, avete voglia e insomma siete stimolati da quello che vi diamo, insomma, con queste costanti dirette, c'è il pulsante Anche Io, dove potete contribuire o una tantum su PayPal oppure ricorrentemente su Patreon, e grazie a questi contributi che arrivano da parte di tutti noi, insomma, ultimamente stiamo assettando sempre meglio, insomma, quelle che sono le nostre potenzialità. Abbiamo anche ampliato il nostro piano su Spreaker, e quindi insomma diciamo che è importante questa vostra partecipazione. Detto questo, io ringrazio Michela. Grazie mille, grazie a te Simone, e grazie soprattutto a Carlo, grande partner in crime in questa cosa, cioè grande. E quindi salutiamo anche Carlo Sant'Agostino. Grazie a tutti e buonanotte, perché ormai credo che sia una certa, esatto, visto che domani ci svegliamo presto. Quindi domani tocca pure lavorare, è vero. Esatto. Vabbè. Ciao a tutti. Ciao allora. A tutti. In ogni strofa, in sono un bello, il maestro vive nel suo allievo. Meglio di noi. Sanremo. Continuerò e il successo resterà. E spero un giorno potremo le voci di Sanremo. Saremo il festival di Sanremo. Continuerà e il successo resterà. E spero un giorno potremo le voci di Sanremo portare anche qua. Ci saremo, il festival di Sanremo continuerà e il successo resterà.